come tutti quelli che sono a casa. Come va? E come deve andare? Non ci può muovere da casa? Sì, si può parlare, è interessante che non parli di roba con tutti, poi il resto c'è libera parola. Sì, comunque ho approcciato anche dal telegiornale sardo a Migliorina, mi hanno minacciato la curva, stavano spostando le gemme delle vite, questa grande, questo cielo che ha fatto, è un prete l'ha detto. Praticamente che sta avendo la fine del mondo. Sì, sembra un film di orrore. È brutto, lo sai che cos'è? Che finisce qua e poi finisce da una parte e poi dall'altra, tipo in Spagna sta aumentando. Ma la precauzione non è mai troppa. Quando si usa la precauzione non è mai troppa. Ho visto che è uscito l'altro fuglio da confidare. Io li sto utilizzando dietro per scrivere le cose che mi servono, eccetera, eccetera. Scrivere il numero di telefono, li utilizzo per scrivere, dai. Non li butto via. Ti mettono la multa. Non ti dico nulla, la multa ti metto le basi. A parte che sono chiusi i negozi adesso per le vendite, non sono aperti, quindi non si sa dove andare a comprare. No. Penso di no, penso di no. Supermercati sono aperti, non i grandi centri commerciali. Sì, vede queste cose. Sì, quasi Santiago 4, c'è la radio. Radio è 2, a volte 1, quando c'è QRM di copo. Quelle ricaricabili non servono a niente. Poi, lascia perdere. Non servono a nulla, durano da Natale a Santo Stefano. Molto meglio. Ma se io ovviamente la radio è 4 e va bene. Vabbè, arriva molto più forte anche il segnale, ma si è cambiata anche di posizione. Se sei nella stessa posizione, da 3,5 si è arrivata a 6,5. Ma guadagnare tutti questi segnali, comunque fare strada, tutti questi segnali che guadagni. È notevole il cambiamento. No, non c'è nessuno, almeno che stiano facendo gli orecchi di porco. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Quello è il campanello di casa tua. Perché lo suoni ogni tanto non lo capisco. No, con quello che ha fatto la pernacchia sto parlando. Pure brutto il suono, ma lui si può chiamare solo così. Vabbè, si sta ritornando ai vecchi tempi della CD. Sì, qualche... ma degli imbecilli c'è imbecilli. Ma cazzo, ho letto con tutta la cerchia di persone che l'ho insultato, ma siamo a capo. E poi gli ho come va? Tutto che? È dura la carcerazione, poi il tempo, passato mi si è impallato il collo, oppure finora che ho dovuto tutto massaggiare con... si è bloccata la testa, c'è un freddo fuori la paura, e ho visto che verso lì verso le gallerie c'era una nebbia, sembra che sia piovendo di rocca. Boh, male primavera. Sì, ci sono invertite le stagioni. Comunque di più addirittura c'erano i contadini che stanno lamentando che questa gelata ha rovinato tutte le incisi le gemme che stavano crescendo nelle vigne, già tutte bruciate, quindi c'è questo che è il terzo anno che va male la situazione. E cosa cresce? Si sta bruciando tutto. Ieri qua c'era il ghiaccio, dovete stare pure attento a uscire e per stamparvi veramente. Era difficile, anzi, non si poteva stare in piedi perché camminava questo il ghiaccio e quindi scivolato, pericolosissimo. Speriamo che da domani migliori un pochino, se no, ma c'è tutta la cosa, anche gli asparagi, del cazzo. Ha fatto una grandinata, non so dove, c'era sorpreso, la grandinata che ha fatto. non so dove sia, però una grandinata che era allucinante, sentiva, non si vedevano le grandi, quelli grossi. A Bologna nevica, perché c'è mia figlia che ha telefonato e gli hai detto che nevica. Infatti, adesso cosa ci manca? Dunque, abbiamo passato, cioè passato, abbiamo l'epidemia, abbiamo passato alluvioni, tempeste d'aria, adesso cosa? Il turno di chi? No, il terremoto no, non lo vogliamo. Beh, un pochino già c'è stato, dai. Quindi quello l'abbiamo già passato. Ci manca il meteorite, cosa dici? Lasciamo perdere, sembra che vogliano eliminare un po' di persone. Forse si sta ribellando, forse sta ribellando nei confronti dell'uomo che sta inquinando, facendo, quindi la natura si ribella, tutta la natura contro quella dell'uomo non c'è credo per l'altra. La natura ha una forza che distrugge tutto. Comunque alle 6 c'è la benedizione del Papa, che è una cosa storica, non è mai capitato in nessun tempo che un Papa solo passasse senza plenaria in un periodo così. Stiamo vivendo un'epoca, cioè delle settimane, dei mesi, che sicuramente apparteranno alla storia, e ancora non si inizia. Dove ci sarà lì? Ma penso che sia sul canale, comunque riporta tutto il mondo, sicuramente su Rai 1 lo danno. Infatti anche la cosa della protezione civile, la ogni sera la svezzerà alle 5:30, la stiamo passando, proprio per dar spazio sicuramente a questo evento storico. È in Eurovisione quindi. Ma io ho telefonato perché su Facebook c'era il comune che stava distribuendo mascherine, due per famiglia. Ho telefonato e mi ha detto sì, ma è il comune di Chiaramonte che lo sta facendo, lo facciamo solo per la zona di Chiaramonte. Mi stavo già illudendo, perché la mia farmacia non ne ha. No, nessuno ne ha. Stanno già si stanno facendo le industrie, ad esempio adesso per la Lombardia e forse anche il Veneto riusciranno a essere autosufficienti. Il problema è che in quegli ambienti non le può neanche lavare, capito? Sono talmente infestate da ore e ore di lavoro e poi contaminate, non sono più sicure, quindi c'è da confrontare, c'è un ciclo continuo. So che via Roseto sono arrivati, quella farmacia che c'è via Roseto, però andate. Sì, poi prima di arrivare l'hanno già finita, non c'è se ne possono. Le liste ci sono migliaia, magari ci saranno tante di quelle file che alla fine dei giochi te la prendi, ti prendi l'infezione a forza di stare a casa. Non lo so, però io ho questo problema che devo andare in ospedale per fare la visita, devo fare prima la LASL e poi fare la visita ortopedica. E lì non mi fanno entrare la maschera. Quanti di buscare? Quanti c'è? Non sono arrivati nella mia farmacia né guanti né cose. I guanti me li ha portati un amico che ce li ha messo. E quelli grandi. Sto usando un filo per portare il cane, per fare la spesa, eccetera, eccetera. Esattamente quella di una casa. Se c'è una macchina da cucire, adesso fatela. Tanto è costone. Quindi le funzioni te la fai, ma sì. Io non ho una, quelle che usano loro per l'ospedale. Posso garantire che quando dopo la spesa, sempre e mezzo, non si riesce a respirare, non si riesce a respirare. Se la tieni più di un'ora, penso che dopo di un'ora e mezzo già cari a terra. Non le piace. Gloria. No, non ne ho di macchina da cucire, anzi ce l'avevo per meglio dire. Se mia moglie ci ha voluto vendere la di mamma, ha voluto vendere perché dice che non si stava a fare nulla con l'attaccamento che avevamo, c'era lupo grigio, non so se lo ascolti, lupo grigio, avanti, lupo grigio deve aver visto, aia, K che ha pagato. A mano ci avevano fornito le cose, il comune, mi sa che era molti al pronto soccorso, il comune ha portato le mascherine, le ha venute a fornire e le palmate, addirittura le portano anche a casa, due per palmate. Sì, ma devi fare un fatto gatto, un conto darlo a fatto gatto, un conto darlo quanti siamo, le persone dovremmo essere 120.000 per questo. Un peso l'interno, un tecchio per famiglie, quando ci saranno, dovranno parecchi autocarri. 240 mascherine. 240 famiglie, qua a Sassa viene l'interno. Sì, aggiungi qualche zero. Sì, aggiungi le cose. Avanti, va barruzzo, qui è freddo, ero qui. Ah, se lo si fa lo scalo, invece a casa. Ah, vai, vai, la campagna, sì, segnale. Sì, 9.30, sì, sì, a casa tua. Sì, andavate sì. E tutto è buono, anche il segnale. C'è due bassi, c'è un grillo. E c'è un franco, avanti, ciao. Ciao, buonasera. Non ho capito chi è, perché la voce è molto, molto rauca, diciamo, beh. Rauca, cuffa, non so. Comprensibilissima, però c'è una formalità che non ricordo. Ah, buonasera, non lo ricordo, guarda, certo che io sono mezzo medico, del tutto rincoglionito, quindi. È un vecchio CP, Gianfra. Franco California. Che adesso, come stai uscendo, come sempre con quella stanera, e non vorrei mai sentire un po' paurato, non ti ingaggiate, io ti conosco che sei invece del piloto, quello nero, e la stanera, ti ha rubito, ti sta caricata quella di vero, già esce bene, esce bene. Però sei vicino anche, quindi non si può dare un controllo. Ciao Franco, come lo sei? Ah, sì, è molto forte, 9.20. Però si è attaccato. Sta arrivando 9.20 a Monte Oro. Non è messa questa attenzione. Ah. E sta arrivando bene, dai, non c'è la zona buona. In che zona sei? Sì. E dov'è che non ha più? Siamo in Austria, io vedo. Però tutte quelle zone, il sacco cuore, quelle la cultura, poi sono insomma questo tavolato un'altra. Io credo che era tutto positivo, buonasera a tutti. Forte e chiasso. A casa sì. Ma già arrivi bene. Avanti, ciao anche Gianfranco. Avanti Nicola. Forte e chiasso, lo senti fra? Cappuccini mi sa fra. Cappuccini, ecco, portatile fra, cosa vuoi pretendi? Non sta parlando, lo senti Nicola? Tanto ti ascolta a 5, a me bene mi ascolti Nicola, sì? Ok, dai. Vabbè, purtroppo il discorso che... Ma nella mia posizione è ok, va bene, però da lui magari è un po' negativo. Sicuramente sì. Gianfranco, tu lo senti? Sento che parla ogni tanto, ma è a livello QRM S3, il QRM S3 sta sul conto. Quindi non lo sento, sicuramente è giù tra in casa sua, però sono al secondo piano, non c'è poco da fare. C'è sta di più anche un buco, quindi peggio di così. Se ne muove. Mi rimango un attimo in ascolto, perché tra poco c'è la conferenza stampa della protezione civile. Guarda, Franco, Gianfranco California sta uscendo con l'antennino. Un attendino di macchina, guarda quanto esce fuori. Lo sento. Ah, io ammazzo le voci. Ciao a tutti, buonasera. Ciao fra Santiago 9, arrivi qua a Radio Super 5. Ah, bomba. Non smentisce mai, due ne avevo, una a te e una a Pinuccetto, ma che non ha per quelle antenne sono. Ma metti dove la metti, funziona sempre. Dove ti ho detto io, dove avevo messo quella VHF, ti ricordi? Da lì tu arrivi da tutte le parti, ti ricordi, parlavo con Alghero, io da lì, da quella posizione lì, quindi figurati, va bene, poi quell'antenna è ottima, tipo frusta nera, ma non è frusta nera, chi c'è? C'è penna bianca, ciao Gianni, buonasera a tutti. Ciao Claudio, ciao anche a Luca, dai. Buonasera a tutti. Va molto bene, vedi, c'è un po' che ci avete messo l'antenna di queste. Come che vanno, se ci apparecchi? No, non ce li trovano più, no. Ne avevo due, io le avevo comprate alla fiera di Milano. Le avevo comprate perché mi sembravano, siccome c'hanno il mollettone, capito, c'hanno la molla. Mi sembrava un'antenna VHF, le avevo comprate, invece poi ho riscontrato che l'antenna era 27, una l'avevo messa nella Bravo di Cosio, di Franco, poi l'ha tolta e l'altra l'avevo data più oggetto, capito? Non si trova. E dopo grigio lascia che finisca questo, questo baravano, poi mi avvicino io il colpo giovane, faccio verso la piatta l'antenna. Lupo grigio, io sono il maestro dei lavori, come si dice, dei lavori che non si possono fare. Lasciami vedere dove abiti e fammi vedere il poggiolo, poi ti faccio la staffa e ti piatto l'antenna lì, a vedere se la montiamo l'antenna, altro che sul tetto, eh. No, no, no, tu tieniti le tue idee, io mi tengo le mie, io devo solo vedere dove sei e che posto hai per poter montare un'antenna che non sia ingombrante, poi ti faccio vedere la piatti l'antenna lì, esci anche meravigliosamente bene, non ho dubbi. Ciao anche a Gianfranco. Solo voi ci siete, ciao Lugarieri primi. Ciao Cla. Cosa becci, che avrà abbiato l'antenna, Luca, a Lupo Grigio? Sì, a voglia. Non abbiamo avversari. Non abbiamo avversari a montare antenne. Vai Gianni. Sì, ehi, non vogliamo il nostro rinvento a Lupo Grigio, dai, così lo ascoltiamo bene. Sì, attenzione che quella è una bella zona, eh. Dove abita Lupo Grigio io più o meno ho capito dove abita. Se abita lì nei pressi dove c'è gli uffici di Abanoa, quella è una bella zona, ragazzi, bellissima zona, alla grande, lì devo vedere il posto già, una volta che vedo il posto, nel peggiore io l'antenna gliela piazzo, anche un'antenna seria, secondo com'è, se ci abbiamo altezza o non c'è mantovano in mezzo ai piedi, avvedetevi la bongola. Abita nell'angolo tra Viale Trieste e Viale Caprese. Sì, buona quella zona, buona. Guarda Lupo, io c'ho una casa in Viale San Francesco e per colpa di mia moglie non ci posso andare perché non c'è ascensore, tre piani senza ascensore. Ma quando salgo sopra, perché il terzo piano mansardato, capito? Ma è uno spettacolo, uno spettacolo. C'è praticamente un terrazzo, però io lo chiamo terrazzino, ma è terrazzo, sarà 6 metri 6 per 3, 18 metri 4. Ma lì si monta l'antenna lì guai. Io mi ricordo quando Marco parlava da quella zona lì, Marco Scorpio arrivava in capo al mondo quando era CB, usciva un bel forte da lì. Molto bene, comunque, lascia passare questo cimitero e poi vediamo, ce la montiamo l'antenna o Nico, non ti preoccupare. Va bene lo stesso, non ti preoccupare, già ti facciamo uscire bene, non è che dobbiamo arrivare in Brasile, no? Basta che ci sentiamo tra di noi. Ecco le zone di Mitro, del Porto Torre, c'è tanto Alghero, non c'è nessuno, quindi entra ogni tanto qualcuno, ma quando arrivi a Porto Torre, c'è Sorso, qual è il problema? Siamo sempre gli stessi. Avanti, Fra, e allora, cosa ci racconti? Beh, da te, io sono solo andato a vedere, e boom, adesso decidiamo, il tempo intanto è brutto, per stare lì isolati non potrei fare niente neanche fuori. Allora, ma sto qua, ma appena arrivo al tempo bello, se questa cosa non passa, me ne vado anch'io in campagna, gappa gappa, vai Gianni. Ehi, allora, speriamo che sia più presto, ma il problema c'è quale? Che passa qua e in Spagna sta aumentando, se non si regolano con i contagi, Si deve stabilizzare tutta Europa, già. Se non si stabilizza tutta Europa, contagi e morti, non ne togliamo piedi. Ci deve essere una stabilizzazione totale, capito? Compresa anche l'Italia, perché altrimenti è un casino. È un casino. Vabbè, speriamo bene, già avete detto. C'è una mezza voce che molto probabilmente riapriranno le attività il 3 aprile, sempre con stato di emergenza, sempre con molta cautela, però insomma bisogna aprire perché la gente sta iniziando ad andare a fondo. La gente non ha più risorse, sta iniziando ad andare a fondo, gappa. Cominciare a pagare tasse, queste e quell'altro, la voce, sono delle tasse fisse per chi è esercente, sono delle tasse fisse che l'autorità non le deve pagare. Quindi se non lavori vai di sotto, c'è poco da fare. Sì, già. Le tasse sono bloccate solo per il mese di marzo, marzo, aprile, a maggio poi te le troverai tutte assieme, capito? Il problema è chi ha un'attività e deve pagare l'affitto lo devi pagare, non c'entra niente col governo. Se uno ha una gestione la devi pagare, capito? La luce arriva perché i frighi devi lasciare accesi, la merce c'è dentro. È tutto il sistema che Conte continua a dire non c'è problema, ce la faremo. Tua sorella ce la farà, capito? Non da battere, ce la farà sicuramente. Ma chi rimane fermo, non l'attività, non incassa, come cazzo fa a farcela? Lui continua a fare decreti invece di iniziare a erogare quattrini. Deve dare soldi, deve mandare soldi, deve dare soldi, capito? Perché risorse non ce n'è più. Siamo quasi un mese tutti dentro casa senza tutto quello che è successo prima. Non ci sono più soldi, capito? Chi ha attività non ci sono più soldi. È veramente una preoccupazione, veramente una preoccupazione. Perché io sono uno di quelli, nel mio piccolo sono uno di quelli. E sto iniziando già a girarmi le balle, capito? Sì, un po' tutti lo siamo, Claudio, è un casino. Chi nel piccolo, chi nel grosso, anche ti posso dire, spese condominiali che non te lo fanno passare, si accumulano e poi in un mese ti devi pagare 300 euro invece che 100 euro. E vabbè, lì sta a te giocare l'astuzia, come tutti. Io sono dei economisti, li ho messi da parte, ho messo a parte febbraio, ho messo a parte già marzo, adesso vediamo se passa l'aprile, se lo metto da parte già aprile. Quando passa li dai tutti assieme, non è che te li devi spendere, perché se ti spendi i soldi che sai che devi pagare, allora addio, allora ti metti una corda al collo e ti appendi, scusa. Queste sono le cose, però io sto parlando di chi ha un'attività, la gestione, l'affitto, bisogna pagarlo, i fornitori vanno pagati, perché la merce che tu hai comprato a gennaio e c'hai 30, 60, 90, perché si fa così, o alcune aziende te lo hanno direttamente a 60 giorni devi pagare. Quindi magà, hai capito? Perché altrimenti poi c'hai quelli, più quando apri c'hai altri, cioè quando uno apre ha veramente casino, perché c'ha tutto bloccato, non ha incassato e deve togliere i soldi che ha messo da parte, e quei soldi finiscono. È un casino, capito? Chi ha investito è un casino, io spero che termini al più fretta possibile, perché sennò veramente si sta consumando tutto quello che uno ha messo da parte, perché non ci sono entrate, non c'è niente. Cosa vuoi fare? Vabbè, avanti Luca, riprendi e fai girare per Lupo Grigio. C'è un attimo, faccio roba al telefono, Cla, riprendete voi. Lupo, riprendi. Sì, sembra che ci sia questa prospettiva, perché mia figlia lavora nel settore, quindi il 3 aprile dovrebbero riaprire tutte le attività inerenti a al decreto che ha fatto Conte, che ha fatto il governo. Ok, l'emergenza rimane sino a luglio siamo sempre in emergenza Covid-19, così chiamato coronavirus, quindi siamo in emergenza, però le attività aprono, cioè la giornata riesci a farla, riesci insomma a a tirare la baracca, riesci a incassare qualcosa e quindi si va avanti. Con difficoltà sempre, però si va avanti fino a quando il decreto legge non sarà terminato del tutto. Ma così, in queste condizioni, mio figlio è già un mese a casa, capito? A parte, vabbè, che è a casa come dipendente, ma ha dei progetti, ha un progetto che purtroppo si è fermato per colpa di questa cosa, se aveva intenzione di portarlo a termine prima dell'estate, sicuramente adesso si porterà a termine prima dell'inverno, capito? È un casino, vabbè, comunque. Speriamo bene. Buona quarantena a tutti. Vai Gianni, fai girare. Comunque anche io lì ho mettendo la parte, solo che poi devi forse una volta. Andava. E purtroppo siamo in questa condizione e dobbiamo vivere sulla giornata che ci dà, cosa dobbiamo fare? Capite? Buone idee, se non lo facciamo. Avanti. Sempre no, poi si fa compiti positivi, va bene. Qua sempre quello là è quello che si scappa. Cos'è? Che radio è questo? Io lo so che radio è. Abbiamo comprato in pari. Gappa, già va bene, fra. Ma stai usando quel microfono normale? No, lascia quello, già spinge bene. Non ti preoccupare, già spinge bene. Se sentite voce, mia figlia al telefono. Sto parlando di lavoro anche lì, mamma mia, sempre in conferenza stampa, tutta la vita in conferenza in Urugoso, come si dice, conferenza stampa già, videochiamata, con il datore di lavoro, che è il suo carissimo amico, con tutti quelli che stanno mandando avanti il progetto suo, ero conventissimo di iniziare i lavori, invece tutto bloccato, affanculo, vabbè, pazienza. Luca al telefono, avanti Lupo Grigio, riprendi. Ah, benissimo, il 29 di questo mese, e mi pare di sì, oggi è 26 ed è giovedì. Così è giovedì, no venerdì, ma oggi venerdì o giovedì è? Asciuga, venerdì 27. Per carità, stando a casa anche il tempo ho perso. Vabbè. Gappa, vai, fra. Oh, Gianni, riprendi. Purtroppo non si capisce più nemmeno che giorno è, se è di mattina o di sera. Quando mi sveglio non capisco se è mattina o se è sera, figurati, ho perso tutte le condizioni del tempo e delle giornate. Quando non muovi, non ti muovi, non scrivi, non fai. Quando scrivi l'angolo, la data, eccetera, invece è così. Ehi, vabbè, no, mi sta dando un bel presto la mattina, lascio le tue balle. Cosa fai intanto? Vabbè. Gappa. Cosa stavo dicendo, fra? Perché non ci state andando con Lucia in campagna? Gappa, saluta ma Lucia. Ehi, ancora più forte, fra. Ancora più forte. Ma va bene. Ehi, quasi 9-5 sei, fra, va bene. Per cosa ci ha fatto la farina? Quello è un S9. Non è un S9, no, già. Sì, ma di quella battaglia. Poi per lo riscaldo che ci ha fatto anche... No, qui c'è un Cobra. Il Cobra, no, fra? È il Cobra, gemello del mio, già. È il Cobra GTL 2, la versione da 200 watt. No, ma non è quello il problema, è che non posso levare molto la potenza, se no gli giugli si antenna, che c'è il cavo fine, capito? Se no quella radio potenza ne va quanto il 440. Bella radio quella, gran bella radio. A me no. Ma e come hai fatto a fare? La staffa gli hai lasciato sotto per il per la pancia. Io questo non posso mettere la staffa. Se c'ho il ripiani. Io quello già l'ho usato quest'estate, mi sono ancora fatto sentire. Con il parre più 3. Col perno più 3, una bomba esce un bel forte, un bel. Solo che è un bel grande, è più una bel magnum già, sono un lineare sotto la pancia, ma non c'è quanto è grande, di sciughe, è un bel grande come la radio. Però devi lasciare la staffa appena inclinata, perché se no tocca la pancia e la radio balla, capito? Perché sotto la pancia c'è il lineare. Ma perché non la puoi mettere? E già c'ho altre radio dove la metto, non la posso mettere sopra le altre radio. Io no, la foto non l'hai mai vista, la mia foto. Praticamente io ho la base, la prima serie di radio tutte sotto, poi c'ho il ripiano, sempre tutto fatto da Giulio, le altre radio HF tutte sopra, e ad angolo ci sono altre tre radio HF, e cos'è dove la metto? Sopra la radio HF, Maria Mare Graffia. Certo, mi ricordo, l'hai messa nello stendino. Esatto, direttamente il mozzo messo dentro l'antenato, come un piano della cappotta della macchina, lì l'ha messa lui. E ho detto l'altro giorno, se gli rende, vai robucco, l'abbiamo fatto, uscivi benissimo, vedi, l'ha messa lì, ha messo quella nera, no, quella che gli avevo fatto io, che c'è anche il Pinocchietto il Moro, quella lì gli ho fatto, quella fa molto bene, quella è buona in paro, la buona in vola, la sua vanta esce forte. Vai Giannetto di Pirri, Gianni. Lucavo di bianco che ce l'avevo nel comodino allora, adesso via. E me lo appoggiavo nell'orecchio, no? E quando la spirale, no? Il cavetto, lo appoggiavo nell'orecchio per non cadere. E quando mi chiamavano schiacciavo direttamente il PTT, ce l'avevo sempre vicino alla bocca, capito? Mandromeghe. No, ma io potrei metterlo anche su di piano. Adesso se va bene come al testa. La metto al posto del computer, la metto una tazza se va bene l'altezza, perché non lo so. Sì, vediamo, cosa hai detto Massaggi? Miccosi, ma gira per le barche, con l'avviso mi mandi buona Miccosi, non mangio Miccosi, non mi puoi tenere varia, riprendi un po'. Tappa, dopo grigio, piena libertà, dai, ci sentiamo dopo, non ti preoccupare. Vai Lucaria. Luca, riprendi tu fa con Gianni un secondo, mi sta chiamando mia figlia. Ho capito, quella caricata con il capo tutto quanto ha girato attorno, io ho capito quale. Se io voglio metto, c'ho la tubo 2001, che è la tubo 2001 e tipo 2010, ha la stessa resa di una mamma, 1000, la PLC 1000, quella della Sigma, quella è buona lo stesso, però la tubo 2001 è ancora 1000, grazie a te. Allora mi chiedi la casa, quando passi con Santiago Opera, un produttore, se puoi aumentare per segnare. Sempre così, sino ad arrivare a Sassa. E io già avevo quello modificato, la palanca, ma come si fa? Più del 9.30. E addirittura quello che mi sei dato di due zette, io quando ti arrivo a te. E allora ci vedono le amede a Rubino, cioè come fanno ad arrivare al 9.30 quando tu ti vedi con l'antenna via. Sono più vicino al mare, però. Tu sei più in alto, ho messo più vicino al mare. Ma che questo non è più? 4.40 non è più. No. Eccomi qua, ora so, figlia, sono le 6, allunga la giornata, allunghiamo pure noi, sì, vabbè io di sera non uscivo mai, ma anche non era lavoro, di mattina sì, per fare commissioni eccetera, poi stavo lavorando, quindi adesso però bisogna stare a casa, e allora rimaniamo a casa, e andiamo a fare caffè gaffanco, no, si rimane a casa, e così e basta, va bene, Lucariello, e Gianni chiuso, infatti c'è un po' di picchi positivi, va bene, bella radio quella, ma come dire il dente? Quella lì è come quella che ci aveva Sandro Tigre, è vero Claudio? sì, un fatto simile di quella, un fatto simile, quella di Sandra era Lafayette, SSB 200, e ma come deve essere mettato in 50 ampere, se no l'avresti fatto andare? Con quanti ampere ti sta assorbendo? E se vai in banda laterale? poi sono quelle che scaldano bene, gli avevo messo la ventola, l'avevo mandata dopo l'aveva comprata, gli avevo chiesto con la ventola. Ma c'aveva già la ventola, bro. Mi pare che avevo mandato la foto, non è come quella di Sandro. Il tuo bra è una cosa, quello là era della Fayette, il tuo bra ne ha due di ventole, nel dissipatore che c'ha nel culo della radio, lì dove c'è attacco il piede, c'ha due ventoline, cioè, quello è un HF, io con quello lì ho parlato in 10 metri con l'antenna di 10 metri, capito? In 10 metri, 98 mi pare 350 o 300, insomma ricordo. Ed è come HF, arriva sino quasi a 30 mega, 29,850. Cos'è anche questa sera radio quando è uscita? 700 euro costava. No, per quella che c'ho io, lei costa 500. Ho capito, ma non è uguale, no? È un'altra cosa, ma Gianni, sono due radio completamente diverse. C'è frequenzimetro, vabbè, a parte frequenzimetro c'è un sacco di cose. C'è un sacco di cose, potenza regolabile da 0 sino a 100 watt in AM/FM, da 100 a 200 in banda laterale, c'è un potenziometro come il 9440, c'è scritto power, capito? Una bella radio, una bella radio, bella radio, io non ce l'ho più, io l'ho venduta a 450 euro. Comunque tutte le cose che hai, c'è anche la mia, c'ha potenziometro, c'ha, non c'ha il watt che c'ha quella lì, però frequenzimetro, potenziometro, tutte queste cose qui ce l'ha anche la mia. C'è anche il top gown per il microfono, per aumentare la modulazione. No, ma c'è tante cose, ehi, ehi, certo, ho capito, sono due radio diverse, sono due radio diverse già, infatti era meglio che ho provato tutte e due, ne ho avuto due io di S9, quella lì, quando ho preso quella era un'altra cosa, la tua parte da 26 a 28 805, quella parte da 24 c'è anche le bande VARC, da 24 MHz a 30 MHz. Questa non è l'S9, io quello che c'è, 9 o 80, è diverso. Sì, solo i watt cambiano già. Ma se tu guardi, se vai, vai da 26 a 28 805, non sale di più. Quello che c'è a Franco va da 24, che sono già bande varte, da 24 MHz, che quello è amatoriale, sino a 30. Apparatura di amatoriale come gli HF. Sì, beh, è una radio che infatti non è andata molto perché il costo era troppo eccessivo. E poi c'è un CB, di cazzo, ma io mi voglio la radio a 700 euro, ma fa cosa, intanto 40 canali devo usare. Alla fine non ha fatto un grande successo perché costava troppo. Costa troppo. Poi metterla in macchina è un casino, deve avere un bel posto proprio sotto la plancia perché è anche pesante, capito? Quindi insomma, una radio diciamo da casa, però molto bella. Massimiliano ce l'ha Massimiliano, ma esce un bel forte, un bel. Ma poi c'è una ricezione, guarda, io in banda laterale manco il clarifer usavo, perché c'ha sia il clarifer che il delta tune, ce li ha tutte e due addirittura, capito? Non usavo niente, nulla, mettevo 28 e 300, come parlavo una radioamatore a 28 e 300 rimanevo, ma bella, una bella radio, è bello anche quello che c'è tu, 480, molto bello, è simile all'S9 però con qualcosa in più. E già, oramai prendi di Nike il radio, lascia perdere, già hai visto cosa c'ho io, cosa non c'ho dentro l'armadio, perché cosa non c'ho proprio, non cosa ho, no, cosa non c'ho. Vedi tutto di più, tutto fermo lì, cosa ne fai? Quando qui a Franco non lo faccio sentire, poi lo attaccano, no, io l'ho tolto. Non mi interessa, anzi ne approfitto per dirvi che state attenti perché in PMR sta trasmettendo la protezione civile per l'emergenza sanitaria, quindi occhio che ci sono un po' di di controlli, oddio, non è che sono controlli, però c'è la prefettura in ascolto, non vi spostate dalla frequenza segnata, non usate potenze alte. No, io l'ho tolto perché avevo messo un veicolare e mi dava solo fastidio, poi a me non mi interessa parlare in PMR, la verità. Mi sembra che tenga 300 watt, però non ti dirà, lascia tutto così a tutti i diti. No, già non mi interessa quella, no. In Sassarese si tirano in gaggata la frequenza PMR, quindi non ci voglio entrare in merito nelle discussioni, nelle cose. Parli, non facciano, ma non me la fate un... Io ho un 1027 e poi faccio il radioamatore quando devo fare, quando devo fare dal PMR. Tutto proprio, manco sto ascoltando, non mi interessa. Tutto. Se non venivano in regola, cioè, dove la vai a riciclare, ne vedi, ma basta anche i bui, lascia aperto. No, ho fatto le cose troppo in grande, no? Non mi interessa. Io sto al mio posto, basta, ecco che l'ho preso per i cazzi degli altri. Va bene, cambiamo discorso. Comunque così, che ci è arrivato un coso, mi pare che Gianfranco me l'abbia detto. Ho fatto un decreto legge della protezione civile con il ministro delle telecomunicazioni, appunto stanno usando il PMR negli ospedali. Negli ospedali, nella sanità, la protezione civile, insomma, un po' tutti, quindi bisogna stare attenti e non mettersi in mezzo alle cose. Non so manco che canali stanno usando, figurati. Va bene che se non ve ne manco uno canalizzato, sono tutti i veicolari e portatili amatoriali, quindi siamo pronti. Lucariè, non c'è Lucariello, forse l'unico in regola c'è Dumi già, Dumi e mezzo, ah già, sta usando un microfono normale, forse si allontana, forse è bene, bella chiara, che noia, minchia, le 6:15 sono, fesso Maria Gara, non ne posso più, la mia moto saltalone, salonata, anzi mi sa che domani le tolgo il la metto in moto, mamma mia, ragazzi, speriamo che parta, già la macchina sta facendo fatica a partire la mattina perché non la stiamo più usando. Attenzione Franco, cambio, questo qui è 9:80, dai, come sta andando, cambio, sì, l'ho messo io, ecco, se voglio lo tolgo, qua. 1, 2, 3, prova così e senza ecco. Ola. Qual è più bella? Se non spinge molto. Cazzo bravo, come te la vuoi? L'ecco è anche troppo forte, senza ecco va meglio. Sta meglio il coso nuovo ho preso. Il 600, l'ho fatto il 600. Sì, vabbè, questo è quello nuovo, non è più 95 cavalli, questo è 115. Io da poco... Poco sto uscendo fra, perché ho avuto davanti a problemi della schiena e quindi sto uscendo poco, per quello ho messo il pallone, adesso vediamo, non arrivo al caldo, però devo mettere in moto e poi sto usando lo scooter, quello piccolo C35 veramente bravi a te più altri. Io ho accelerato, mi si è girata in tondo, però una bomba con la moto, una bomba, ragazzi. Quando partivamo, partivamo la gomma dietro, mamma mia che potenza, vabbè fra, rispetto alla tua, la mia c'aveva i rulli, variatore, marmitta, centralina, l'ho speso più di una metà, la mattella avevo preso più di 1.000 euro, forse era in linea, poi non mi ricordo, avevo speso un sacco di soldi, ma proprio i cavalli, va via, siamo Carletta, ma vi ha perso un gasco per tenere di io. Sì, c'è soltanto, faceva tranquillamente, no? Io non siamo scesi a Pocotose a scendere. Le rettinie di Lioni eravamo oltre 190, fatti una pesce con gas, Carletto. In due mi già, in due, no, la giura, in due. Scusa qua, non ce l'ho perché stavo regolando la potenza. Guarda adesso, Franco, avevo la potenza bassa. Infatti sei 25 qua già. Cava. Qui vabbè, magari spolverando le cose lo tubi. Andava, mi si sta asciugando la gola. Cosa stavi dicendo, Claudio? Della moto stavate parlando. Sì, il Timaccio, Franco, il Timaccio mio. E quando acceleravo pattinava la gomma di dietro. E in due era Edo e Luca con la sua, ma quello di Franco era normale. E io e Carletto, fratello di Luca, siamo a Porto Torce. Ma poi c'era un gas che ero oltre i 180, ma oltre quello quasi a 195, una cosa del genere, una cosa allucinante stanotte, in due, che aveva veramente la gamba da giubbassato, c'è già un dado, adios! Io ne ho messo 9. 9, con la macchina? No, con la moto, 9 minuti, giusti, calcolati. Oh, vabbè. Il maxi che c'avevo io non c'era per nessuno, gli ho la giusta a Robby De Logo, se ne è ancora l'inghiese di Didi, cazzo quanto ci vantava, cazzo, ecco lì, fra, quando abitavo lì a Pasquari. Cazzo, la mia, la numero uno, fai la bravo, che sei tutto rumori, vabbè sei tutto rumori, stai facendo rumore, tu fai solo rumore con quella notte. Ma te la giochi una bevuta da Adamo, io mi posso giocare quello che voglio perché sono sicuro, però perdi. Ma io ti sto dicendo che vinco, vabbè, io ti sto dicendo che perdi. Vabbè, io andiamo al chilometro, partiamo dalla prima rotonda, minimo ne ho preso 150 metri. Lui diceva che la sua aveva più tenuta della mia, ha detto fare bravo, guarda che la mia è 500S. È l'ultima serie, tu la penultima, ma la mia va a centralina, variatore, ma tu puoi vincere bene. Io non sono buon pilota, però ti sto dicendo che in curva ti crepo. A me, ehi, diceva Franco. Allora gli ho detto, tu sei convinto, va bene, dai, scendiamo a Castelsardo, passiamo la Sorso però, da San Camillo. Passiamo a San Camillo. Cazzo di passare a Brattamona, passiamo a San Camillo, va. Eravamo sempre io e Franco davanti, a Franco ogni tanto lo passavo perché Franco un po' la temeva la moto, un po' tu la temevi fra, e quindi ogni tanto si affiancava e lo baciava, arrivi a me, acceleravo, vum vum vum, due curve e non vera più, siamo arrivati alle fornitore di Marrita, lo sai che la sai portare bene la moto, ascolta loro, no, né per presunzione, per te l'ho detto quando eravamo in via Pasqua. Io ho iniziato a portare la moto e avevo 14 anni, ok, io ho sempre portato moto, non bicicletti, moto, quindi con la moto me la cavo molto bene. Però a prescindere da quello, ti ho detto che ti crepavo e ti ho crepato, perché non ce n'è, tu moto non ne hai, se vai, ci sono solo rumori vai e buh. Beh, quando ha saputo che la stavo vendendo quella moto mi ha fatto due palle, io l'ho dovuta vendere, si è venduto la sua e si è preso la mia. Ma non ce l'aveva il figlio di coso, il figlio di... ma quello che faceva i panini? No, io l'ho venduta a Robby, quando poi Robby non lavorava più, che ha chiuso il fornitore, l'ha venduta al figlio di Tore. Infatti ce l'aveva il figlio di Tore con la tua. Sì, la metteva in garage da me, perché non aveva garage, capito? La metteva via Pascoli. Poi l'illusione da una pegliata, poi finalmente l'ha capito quando eravamo fuori con le moto, io, Franco, lui, Antonello, non mi ricordo come si chiama, insomma un po' tutti con le moto lì in via Pasqua, e la lama gli dice, fate la bella perché chi c'è moto non ve ne fa nessuno, non c'è per nessuno, ti ricordi a cosa, fra, come si chiamava quello che abitava lì vicino a te, che aveva il Suzuki 600, 650. Ma tu vai a fare un problema con te, lo vedo che c'è moto, no. Io ho messo gli occhiali e ho messo giù. C'è due, c'è secondi qualcosa. Prima c'è conga, dove c'è la bunker, alla prima rotonda, te ne lascio 100 metri. C'è convinto davvero tu? Ma ammazzi sì. Allora voglio gioco, allora blu, vai io. La pista che è sfollato, non riuscito manco a punire a destra, ero già la rotonda io. Ui, c'è una ripresa la mia, c'è un variatore con i rapporti. Ah, te l'ha tutto ripresa? Se ti ricordi che avevo, mi c'era girato intorno in via Tempio. L'ho accelerata io fra, e avevo fatto un giro a cielo per partire. E mi si gira intorno, la bagassa di gatto ha fatto. La cosa bella fra è quando siamo andati a Scala Piccata che abbiamo bugato i silenziatori. Che te l'hai venduta qua, se era così bella? Tu ci ho comprato l'Hornet. Se sapevo che la vendevi così me l'avrei presa io, l'ho sempre desiderata quella moto, lo sai, poi mi sono ripiegato sulla mia, perché era bella lo stesso e mi piaceva come moto e mi ho preso quella. Però io ero innamorato di quella, la volevo prendere nuova ma costava troppo. No, guarda, quel modello che c'avevo io a Sassari, ma ti ripeto, non per presunzione o per vanto, ma non c'era neanche una. Era bellissima, tenuta bene, era nuova, non c'era un graffio. Le pedane tutte fatte in coso, in alluminio, con sopra il tappetino nero suo, originale. Ho speso un pacco di soldi a Donatello. Cazzo, Donia lì da Menchivi. Figurati che c'ho ancora il casco conservato di quella moto, perché di quella che ho è diverso, è praticamente chiuso tutto integrale, quell'altra no, che era visiera ma bella. E poi c'ho il giubbotto ancora, il giubbotto, capite? Molto molto bella, 4.000 euro mi aveva dato, usualmente ci verrà giù regalata, 4.000 euro mi aveva dato, mi ha dato in due volte, ci siamo messi d'accordo, ma tu di, io te la faccio la cortesia, se mi bruci sei morto, l'ha giuditto, ho detto, no, non ti preoccupare, mi, a tal data ti do gli altri 2.000, perfetto, è stata la verità puntuale. Mi aveva chiamato lui, vabbè, ci vedevamo tutti i giorni perché io rifornivo lì, quindi non è potuto scappare, non poteva fuggire. Mi ha chiamato, me li ha dati in due volte, 4.000 euro. Gli avevo regalato anche una marmitta, la marmitta originale, gli avevo regalato la marmitta originale, le pedane in alluminio, gli avevo regalato un sacco di cose, gli avevo regalato comunque, proprio perché è stato... Io non avevo preso l'Hornet 600, non te lo ricordi l'Hornet, era venuto anche a Piazza dei Segni, siamo anche usciti con l'Hornet noi già. Sì, che me lo ricordo, l'avevi dato anche a Natalino a farsi un giro, me lo ricordo bene, a Piazza dei Segni, sì sì. E Franco mi aveva dato il T-Max a me, da provare, cazzo mi sono usciti di lacrime, cazzo, quando l'ho tirato in quel rettilineo. Figurati la mia, tu immaginati quando ci vamo, Franco, dammi la tua, perché sempre la mia usava Franco, sempre la mia, e poi mi baciava e mi pigliava Barunguru, capito? Sì, quanto ci siamo divertiti, cazzo. Però molte volte bisognava stare attenti, vabbè, bisognava stare attenti, noi abbiamo fatto con Franco, ma fatto vero, mica siamo usciti a Santa Teresa, a Palau, a Castel Sardo. Tutte le domeniche mattina noi eravamo in giro, tutte le domeniche mattina. Io alle 9 scendevo in garage, lui arrivava, eravamo a pulitina e via. E poi ci trovavamo con gli altri che conoscevamo, eccetera. Se c'era uno a Platanone all'estate, veniva Franco, la rotola, te la mette fra, riceveva via quel Guzzi gigante. Ma detto, quanto vuoi per questa moto? Quanto vuoi per questa moto? Cazzo, minando a piedi. Si era innamorato di questa moto. E poi quando partivo facciamo un rombo che si dice quanto era bella, veramente molto bella. Non me ne sono pentito di averla data, perché era la seconda quella che prendevo. La seconda. Poi quando l'ha presa Franco il modello nuovo, allora ha detto no, ma me la vengo. Se no l'avrei già cambiata, l'avevo cambiata. A me piaceva molto la moto a marcia, capito? Però quella. Soddisfazione ce l'ha per quelle moto, fra, esce ne a lui, ragazzi, ogni curva, è una moto da corso. Io sono andato a alle gare già del T-Max, amores, non l'ho fatta, ho fatto una gara proprio solo di T-Max, ma Sant'Antonio mio, andato con la mia, sono andato con la mia. L'avevo fatta provare anche uno che correva, ma ho detto, madonna, se c'è una bella potenza, perché non ti scrivi? Ecco, no, perché poi erano tutte modificate quelle loro, i polini più sollevati, c'erano gli ammortizzatori a gas, tutto. Vai, cazzo, quindi un sacco di là. Ma ecco, come le pedane in terra toccavano. Quelle moto hanno una ciclica di moto da corsa, hanno una ciclica da corsa per tenuta di strada, per tenuta in curva, eccetera eccetera. Sono moto che camminano però consumano un bel di benzina. Cazzo, me affranco lì. Veramente, dove avevo fatto le gare, a forza di lasciarci, hanno messo 10 euro a scendere e 10 euro a salire. Mi ci hanno fregato, tu fra, io ce la spiace, come vuoi io voglio ripiazzare, cioè, abbiamo messo 10 euro, e sì, ma ci mangiamo a 780, però. No, io camminavo, e anche a 160 andavo io, non era 80, non ti zitto. Andavo anche a 160, Ocla. Una volta me l'ho vista brutta proprio dove c'è il fratello di Benito. È uscito questo cane, infatti Benito mi ha detto che era del fratello. Cazzo, avevo fatto la semicurva che c'è subito dopo il bivio che va a Plattavona per andare verso Sossoli Bidriazzi lì. C'è quello che va a Castelsardo e c'è quello che va verso Sossoli Bidriazzi. Ho fatto la curva lì. Se mi dici tu che su gare non camminendo in burro, ma poi burro mi ammazza, se fermavo mi ammazzavo, quindi l'ho scartato, l'ho sfiorato. Ma noi con Franco, cioè adesso è bello raccontarle, però abbiamo fatto un sacco di stronzate. Non si può fare quella strada con la velocità, già tenesse un cane, una cosa t'ammazzi. Cioè noi scendevamo, entravamo a raccontare ai pediatri a 160, a 170, sino all'ingresso dove adesso ci sono i semafori, prima non ce n'era. Capite? Cioè è una cosa pazzesca, allucinante, proprio da Gannibali, Edo Ridia, Franco Ridia, Cissio. Io ti dico solo una cosa, sono contento di averla venuta la moto, perché ne ho sentito troppe e poi alla fine mi ha demoralizzato e l'ho venduta. Ehi, se guardiamo quelle cose già, anche a piedi muri, allucinante. Ti ripeto, si possono raccontare, però ci vuole la massima attenzione con la moto. Massima attenzione, a noi ci è andata sempre bene, però a qualcuno no. Quindi bisogna stare attenti. Vai, bravo. Ecco. Buonasera, Massimiliano. Ciao Claudio. Gianni. Come ricordo il nome l'altro? Franco Califu. È Franco, va. Ciao, buonasera. Lo so. Ciao Massimiliano. Oggi si avete rinviato, forse è uscito prima, e fra due tempi erano, i tempi possono essere belli anche adesso per la moto e per tutto, solo che siamo un pochino troppo grandetti per poter fare le stronzate che abbiamo fatto e facevamo prima, fra tutto qua. Avanti Massimiliano, avete lavorato e siete andati prima? No, sono le 6:30, non so se hai guardato l'orario. Sì, vabbè, ma avete lavorato oggi, stava piovendo l'Alghero, avete lavorato? No, non sono l'Alghero, non sono più l'Alghero. Ho lavorato solo 3 giorni, quel cantiere è chiuso per il momento, capito? Sono di nuovo sulla Sassi Orga, sì, ho lavorato. Dove giustamente si può lavorare. Va bene. È chiuso quel cantiere di Alghero, sì. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao Gia, buonasera. Eia. Franco sta usando l'apparecchio uguale al tuo. Che cosa? Che sta usando l'apparecchio uguale a quello che c'hai tu. Non lo so. Sono contento per lui. Il Cobra. C'è incinta. Cosa? Il Cobra sta usando uguale a quello tuo. Io sto usando il Cobra, già. E anche lui. Vero? Bella, bella radio. Ehi, allora quella ce l'ha, sì. E vabbè, ce l'aveva, come ce l'avevi tu. Però la usavate poco lui. Stava usando sempre l'altro, il cappa. Va bene, ho detto ha chiuso quel cantiere di Alghero, Massimiliano. Li hanno fatto chiudere o ha chiuso? Avete finito? No, non è che l'hanno fatto chiudere, hanno sospeso per il momento perché non possono comprare più materiale perché ad Alghero è tutto usato. E fino a che tutto bello. Tutto aperto. poi un po' di pazienza ci vuole fino al 3, al 3 aprile dice che riaprono a singhiozzo, comunque riaprono. Vabbè. Va bene, va bene. Ui, a caffè uno mi va. Ma e se te me lo prendi se non ce l'ha? Appagappa, vai fratto e salutare la Massimiliano. Sei un po' bassino, sì, no, però già ti ascolto. Segnale di 3, vai da 3 a 5, la radio è un po' più bassina, là. Ma già ti ascolto bene comunque. Non avevi i punti. E allora venne pure tu, la Puglia. E ricordi quella che è, la gemella di quello che ha dato a Pinuccetto, Massimiliano. La gemella di quella cosa. Ne avevo due, una l'ha fatta a Pinuccetto e una a lui. Va bene quell'antenna, ce l'ha nel filo da stendere. Avevamo fatto un buco tempo fa per mettere un'antenna di macchina. L'ha messa lì, però è un pochino più interno, capito? Però forse lo senti perché passa in mezzo, lui c'ha la finestra proprio che va verso i punti. Io lo so dove abita, io ci sono stato a casa sua. Io lo so che ne avevi due, una tira giù la terra che s'antenna, non ti lamenti, che l'hai messa a posto e poi mi sembra arrivata proprio a Franco. Quella col mollone mi avevi dato tu, Massimiliano, quella senza mollone? Non mi ricordo se aveva il mollone o senza mollone. Questo non mi ricordo. Mi ricordo che era quella frusta nera che te l'avevo portata su. Adesso non mi ricordo se forse c'era da fare qualche lavorettino, una cosa così mi ricordo. Sì, sì, sì, c'è quella lì, c'era il puntale rotto. Sì, gliel'avevo fatto nuovo a Roberto. Filettato, rimesso a posto, messo il cappuccetto, sì, sì. C'è quella lì te usa. Quella lì, mentre l'altra senza mollone l'ho data a coso, a Pinuccetto. Ui, ui, bel dadi di mezza, per carità, manco a uscire nel portone ha fumato una sigaretta, non te la difendeva, cazzo, avanti già. Marco ha portato il calice tutto bagnato stamattina, ha bagnato il calice e ha bagnato lui. È un casino, quando piove è un macello a portare giù. Va bene, c'è il porticato, ma sono aperti i negozi, quindi non fa. La notte sì che va bene. Anch'io, ho il giardino e i porticati dalla che scende fino a giù, con giardini interni, quindi quando sta piovendo io entro lì e lo faccio scendere fino in fondo. Quando è nato biscerà che cacciaiola me l'ha tutta nuda, poi lo porto nell'erba perché non ne fa lui nel marciapiede. Anche sta piovendo, quando si bagna l'asciugo, non gliela ruba. Io già mi muovo l'ombrello, prendo l'ombrello e le faccio fare faccio sporcare nell'erba e poi lo riporto su. Però tu hai balle, capito? Perché non puoi passeggiare, non ti puoi trattenere. No, adesso non sta piovendo più, adesso già va bene. Infatti dopo, verso le 7:30 lo porto, 7:15 va. Bene, bene. Dove sei Massimiliano? Sempre Sassari Orbia nello stesso punto? Sì, siamo in zona dei Mesirios che dobbiamo consegnare quel pezzo di rettilineo là. Stiamo finendo quel tratto lì. E non ha piovuto lì? No, tutta la strada lì, da Comanzano a Venturatura. Vabbè, ma è leggera, non è acqua forte, quindi non fa niente, no, al movimento terra o no? No, già fa, perché quello che tu che fai casino, capito, fai fango. Però stavamo sistemando all'esterno delle strade, la scarpate, terra, roba così, no? Ti ho capito, sì, quelli che si vedono, che poi rimangono con i denti delle... Quando sono finiti rimangono con le scarpate, sono troppo belle, rimangono con i denti della benna. Ehi. Ma lo fai apposta quei denti con la benna per l'acqua? No, come appoggi il piatto, là. Diciamo il culo della benna e appoggi anche il dente, a volte devi spingere, no, per pressare un po'. Ah, sono belle, sembrano canali fatti apposta. Non è che sei un artista lì, tu sei un bulldozer nato. Vai Franco, gamba. Vai, prima di scoppiare tutto l'uccello con la terra, vai già. Ehi, viaggio proprio molto bene, un uomo bulldozer. Lui già. Cosa fa? Cos'è detto Massimiliano, non ci ho capito. Ma è davvero me? Bene, è quello che ti si dice al tuo lavoro. E te se li propongo bulldozer, era lì devo subisso, sta giù battigiando io. Ma Massimiliano forse il video non te ne ha mai mandato. Usa quello scavatore che manda la macchina, mi. Ci su, pazzare due. E che devi fare il video? Tu ci fate della patina, poi me li manda a me. a pagare. E vabbè, tanti anni, poi anche il padre faceva lo stesso lavoro, quindi c'ha la passione proprio. Già, quando sei da piccolino in mezzo a questi mesi così. E poi prima, vabbè, i mesi che c'erano prima non ti permettevano di fare certi tipi di cose. Adesso, con i mesi che siamo adesso, sono proprio all'avanguardia, capito? E in più, vabbè, c'è quello un po' più pazzo e c'è quello che si fida di più, quello si fida di meno. Beh, quando ho visto il Drebbe, che io l'ho giubito con mezza macchina fuori, il Drebbe, quello della discarica, quando butta la roba giù, praticamente esce fuori con mezza macchina fuori, con cazzo si vara, chissà cosa, si rivara giù su, basta che la terra non regga, si vara e si è fottito. Ma già, io ci scendo perché si treme. Guarda che c'è un video che mi ha mandato a me, Italia 1. Cazzo di treme, ma ci vediamo i treme. Cazzo, la discesa a 90 gradi di terra, è fatta da lui, è fatta lui, una discesa per farci il fuoco, a scendere in un foscio. Cazzo, si è parato di tutto, è salito. Oh, Italia 1! Qui ci va ancora l'usegno dell'abitura che la giocutù a faccia. Mi faceva degli scherzi allucinanti. Una volta sono andato a scaricare, mi ha messo una pietra sotto al freno, sono andato a scendere, io lo so come Monterusi, no, che scendi giù c'è la discesa e poi c'è la strada dove passano i camion, le macchine. Però un altro treno bassetti, secondo me andava a frenare a rallentare e non frenava il camion, cazzo, ho tirato tutta la sterzata e ho preso un macione, che adesso ho cazzato d'ora sopra, ho già acciappato la brida sotto, ho detto, ascolta, non è fare più di questi scherzi, gli scherzi vanno bene, ma devi stare attento a quello che fai, perché gli scherzi li accetto, ma non questi tipi di scherzi. E vabbè, lì è andata così. Un'altra volta avevo fatto la traboforatura, io ho preso, c'era una pistola d'acqua. Cazzo, sono andato, ma buffonetti da giù spruzzato, che era il tipo che ti faceva gli scherzi però non li accettava. Si è spruzzato la pistola, con la pistola d'acqua l'ho spruzzata, poi ho detto, tu, mi ha tirato addosso un sacco di mondezza. E non ci ho visto più, cazzo, ci ho visto la giocata a faccia, cazzo. Ora c'è uno spazzetto, no, così non si fa quando mi ha tirato la mondezza, non l'ho visto più, ma ci ho visto la misura a faccia, è in pieno per la giocata. Allora, se vuoi che mi scherzi li fai, devi anche ricevere, è troppo buono. Quel video Massimiliano me l'avevi fatto, non so dove vedi. Nella discesa a ben abbassa, ragazzi, a 45 gradi, ma non capito chi c'ha a vedere. Poi io ho visto anche una ruspa salire sopra un camion che non c'aveva pedana. Prima puntava dietro, poi puntava davanti con la benna, alla fine è risultata quasi dritta. Se ce l'ha fatta a salirla. Io voglio che si sale così già. Ora col mezzo che uso io non puoi farlo questo perché è un fuorisagoma, capito? Pesa 400 quintali, quindi non è che... Non ce l'ho, vi ho pulito il telefono qua l'altro giorno che non c'avevo più memoria. E quindi l'ho cancellato un po' di video e roba del genere, no. Li ho scaricati tutti sul computer e il telefono me l'ho un po' resettato, no. Anch'io ho fatto così, ma scegliato perché ce n'è un bel... C'è un bel, anche gli audio e tutti quelli già ascoltati, ho tolto tutto. Se no avrei mandato io, non ce l'ho quello che... Ma quello era bello. E quello praticamente te l'hai fatta tu per scendere? No, io in poche parole ero in alto, avevo fatto una rampa dall'altra parte e mi stavo girando un po' di materiale. Poi siccome è venuto a rifornire, non avevo voglia di fare tutto il giro, sono sceso da lì direttamente a troncatura. A troncatura. Minchia, ma già, se vedo il video ho la paura. Infatti la dietro del fronte, tu sei mezzo pazzo, cosa vuoi che sia, cazzo già vuoi che sia, mamma mia, mi hanno farata. Chi guida quei mezzi lì è abituato, non è che siano facili da guidare, ma se uno lo fa da piccolo, da ragazzino, ha imparato col padre, così era costante, mio cugino che il padre era camionista e lui si si metteva a pulire il camion da piccolino, li cambia valore, li faceva, poi da grande indovina cosa sta facendo, l'autotrenista. Lo so, no, ci vediamo perché si accorge, però è un bravo a fare quel lavoro, più grande è quella che c'è lui, tra l'altro è un furicoso, fate buche larga, larga, grande. Larga e grande, cazzo ne ha benna sti buchi. Quanto mantiene quella benna? Quanti metri cubi è quella benna, Massiglia? 3 metri, Ma te lo conto, piatto 3 metri, piena un motocarro. Beh, quelle si usano, quando fai grossi lavori si usano quelle. Non usi il bobcat. Bobcat, no. Guarda, se tu vuoi guardare la mia azienda, ci scrivi su Google, scrivi Fiume Giallo, sai Fiume Giallo cosa significa? Mi hanno dato il lavoro, cioè tutto mezzi caterpilla. Vai tu. Anche Maya sono buone, no? Prima si chiamavano Maya, adesso si chiamano CGT, capito? Sono gli stessi, caterpilla, Maya, CGT e tutto gli stessi. Sai che motori vanno che si mette? Già ce n'è. Fanno potenza e basta, cioè hanno motori con tanti cavalli oppure sono motori solo di potenza? No, già, sono motori di potenza e hanno anche un bel cavalli, giustamente, ma poi ci sono le pompe idrauliche, no, che fanno andare tutto. In base alla grandezza del motore c'è la pompa idraulica, chi ne ha due, chi ne ha una, capito? In base alla grandezza dell'escavatore o della pala. Per esempio quello che uso io ne ha due di pompe, non ne ha una, perché una non basta. Ma tu usi sempre lo stesso mezzo oppure ci se ne sono diversi? Vabbè, io in genere ho sempre il mio, diciamo, no, perché ognuno ha il suo mezzo. Però io uso anche la pala cingolata, uso il dumper, la ruspetta, capito, le altre cosettine, no? Quella lì è la più grossa, è il mezzo più grosso che c'è. Quale? Quello che usi tu. Già è grande, è abbastanza. Cazzo sei grande. Ma se vieni, quell'altro video che mi hai fatto, che stavi camminando, quello cos'è, un camion da cava, cos'è? Dumper lo chiami tu. Quelli sono camion da cava, sì, quelli dumper si chiama. Che bugaccio, ogni a ruota che va, sono 2 metri da terra è quel mezzo, via. E tu usi anche il camion, la cava, usi tutto, là. È tipo Vittorio, anche Vittorio usa lo scavatore. Sì, però diciamo che il lavoro di Vittorio, lo scavatore non, già lo usa, ma diciamo che più col camion, Vittorio, e lui ha anche Fochino, lui usa la trivella per fare i fori in cava, per sparare le mine. Sì, lo so, c'è il patentino. Il Fochino, sì. Mentre Ramo invece, ma anche Ramo sa guidare, c'è la patente per il camion. Pensavo che era finito di chiusi. Cosa? Pensavo che stavate dicendo questo chiusi, lo Fochino. No, i Fochini sono quelli che lavorano in cava, che hanno il patentino per fare con la trivella e fuori per mettere le mine. Il marito di mia nipote, la figlia di mia sorella, che conosce, sono due fratelli, fanno tutti e due quasi lo stesso lavoro. Però Vittorio c'ha il patentino per mettere le mine, capito? Con le cave. Claudio, a Monterrasio, sai quante volte le ho viste saltare? Mi diceva, oh Gianni, fermati lì, mi fermavo col camion. Prima si vedeva brincare la roba, e poi sentiva, wow, ogni azzocco. E c'era il tipo, scendeva con la macchina, la lasciava in moto, metteva la cosa e poi scappava, via. Carissimo Vittorio, è nato in Chivi, con Paolo Mura, lui è nato lì con Paolo Mura perché lavorava il padre. È nato proprio in Chivi, in cava, già c'è un anno Vittorio, piscio che... Quelle erano le cave di Ragas. Ramo c'è prima di Vittorio. Oh, non lo sapevo. Sì, la voglia. Ramo c'è prima di Vittorio. No, Adamo ha sempre fatto scavatorista e guida il coso, mentre Vittorio si è più specializzato. Poi io, sinceramente parlando, non ho sentito in campagna. Anche le 10 anni, tu sei la 10. E Vittorio manca paragone con Adamo, già lo sai, un altro tipo di carattere, un altro tipo di persona. Sì, c'è la messa in tutto il mondo. Questo cazzo di coronavirus che adesso ha rotto anche le balle. Ui, lascia perdere, io spero che il 3 aprile Io ho detto lui stamattina, mi ha detto sindaco settimo, mi ha detto che molto per lui per il 3 si potrebbe già iniziare a decretare qualcosa, nel senso togliere qualche ordinanza. Ha detto scendati, muoviti, perché l'acqua è poca, la papera non galleggia. Ti ho mandato un video anche a te, però ancora non lo sta inviando. Io uso anche quello. Comunque c'è anche la benedizione del Papa alle 6, c'è la benedizione. Io non mi sono alzato perché non ne avevo voglia, la verità. Non avevo voglia di alzarmi. Sono tutta la mattina che non mi sono riposato un attimo, ho camminato un casino proprio per riattivarmi subito. Comunque adesso ho provato a sedermi in macchina, posso sedermi, posso mettere in moto, spostarla, farla, adesso piano piano mi rubo la macchina e... E questo mi pare mai avrei già mandato a me, che tanto è su mezzo, non sei jingle che fa, no è bello quello che mi hai mandato, bevendo il latte, ma se ne li ha cazzo. La frutti della moglie, ci sta bevendo il latte, sì. Adesso, dentro il goccio di un latte, viene la latte nella birra. Che è troppo simpatico quel video. Aspetta, lo sto mandando anche a Gianni, mi già te l'ho mandato anche a te. E cosa mi dice spuntone? Non è spuntone, è ripper. Per togliere le pietre? Sì, appena. Questa è una delle più grosse che esiste. Guarda, più grande di quello c'è il D11. E poi più grande di quello non ce n'è. Questo è un D10. Se entra in culo, c'è goccio, ciuccio, vabbè. Non fumo e ci ha già tutto bella. Ah no. E su quanto tira. Minchia. Questa non è a cavalli, e ci sta ganta, chissà. Su giù. Ecco. Registrato. Allora, questa qui, lavorando 9 ore così, mi ripanda mucchiando, si beve dagli 800 ai 900 litri di gasolio, quella lì me. E prende il clac e poi fai entrare il becco. Ogni pistone che c'è quando entra quel coso sottoterra. Mamma mia, ragazzi. Avanti il becco che vado a bere, Gianni Lubrofetta. Buonasera ragazzacci, allora, come va? Tutto bene? Stiamo facendo segaiori a casa. Ciao Massi, ciao Gianni. Ciao già, buonasera, ben entrato. Doppio ru, avanti, l'hai visto quel video del latte? No, io sto guardando quello della... Non l'ho visto del latte, a me... Ah, ecco, c'è dopo. No, stavo guardando il cat. Ciao Gianni, ben sentito, dai, adesso lo guardo Massimiliano, sto guardando l'escavatore. Guarda come si fa a fregare le mogli già, guarda quel video. No vabbè, una ruspa quella, non è un escavatore, avanti lo profetto. Eia, ho cambiato la batteria al microfono, ditemi se è tutto a posto. La grande per me, un attimo di bianco e vado a bere. Eia, vai bevi, sì per me è a posto, sì, perché scarica ce l'avevi. Boh, ho visto il led che... Insomma, si accendeva però non ho... Era un po' fiacco, dai. Ah, ok, va. Vabbè, già. Troppo simpatico. Avanti, Franco, Califfo, ci sei? Mi stai prendendo un caffè ancora. Sì, comunque vai bene, Robofè. A me bene, mi ascolti? Positivo. No, perfetto. Benissimo. Andare e prendi l'occhio. Ascolta un secondo, sto ascoltando un messaggio. Ciao Franco, buonasera, ben sentito da questa parte. Zona bassa, centro storico, zona stazione, dai. 6-9 più abbondante, radio 5. Ma spiega che sto parlando con mio figlio un attimo. Da questa parte va benissimo, Fra. E io come ti sto arrivando su? Cavo. 1-2-3, attenzione Franco, 1-2-3. Cappa, grazie. Ehi, Fra, stavo mettendo a posto il telefono, dai, lo stavo collegando all'alimentazione perché è mezzo Skype. Positivo Cavarroggio, dai, la cosa è bella, frate. Se ne è andata, me la mantengo. Adesso Franco Calivoni, se tu ascolti questa piccola chiamata che ti chiamo, gap. Mira, sto vendendo, mi fa 100 euro. Quanto? Come si chiama? Il Typhoon 2. Quanto lo stai vendendo? 100 euro. Davvero? Sì, ma va, cosa, tanto che poi voglio 31, mi rimagno, voglio un baracchino da 31 euro. Ah no Massimiliano, che ho pagato due fritti. Gappa gappa, va bene. Ascolta, non è che è sottoalimentata la radio? Negativo Massimiliano, ci ho alimentato da 25 ampere, perché? Allora chiudi un pelino il micchiere, perché è brutta sta uscendo, io ti sento, aspetta. Come stammi il micchiere, mezzogiorno? No, no, a posto, ero io, dovevo togliere un pulsantino, capisci a me. Ah, ho capito, là. Sì, no, ma intanto già sta viaggiando bene, quello mi ha fatto Claudio, che ogni tanto fa farsi venire, l'altro da 30, quello dei cinesi, non va, mi fa salire il QRM. No, no, adesso stai andando alla grande, perfetto. No, ma poi non lo trovo, ma neanche l'altro che c'è la marina, ma non mi interessa, no, no, no, no, cioè, non dico che faccio bisogno di Nina, oddio, però non mi fa bisogno di venderlo, ma quando non un avvio. Io sono, a me piacciono queste cose, dai. Poi se capita magari di trovare un 3.900 lo compro, però da spendere poco, Lo più barato lo prendo, perché mi piace come apparecchio. E il 3.900, diciamo che è come il Tornado 4.500 alla fine, la stessa radio. Se la trovo che magari ha accumulato la biglia. Anche il coso, il Superstar, quello 360 FM, è come il 3.900. Allora, questo qua è quello all'altro, so, questo qua c'è una banda in più, mi sa che l'hai avuto fra, tu vero? Tu l'hai avuto fra. No fra, ma adesso è passato un po', vero? Adesso è vero. Franco l'ha avuto il Typhoon 2 ha avuto. Allora, Massimiliano. Dimmi. Dimmi, l'ho visto su eBay 120 euro, lo stanno vendendo. Che cosa? Il 3.900. E quella è la cifra. Però bisogna vedere se è tutto quanto magnurato, è visto. Se tu lo stai cercando io, uno buono già te lo cerco. Mi piace un apparecchio, questa inserzione è stata chiusa dal venditore perché l'oggetto non è più disponibile, non c'è più. Gappa gappa. Va bene. Poi c'è un TS-140, 300 euro più 40 di spedizione, sul buco di affianchi. Poi, avanti, dopo offerto. Eia, ma il capo stai usando Massimiliano? No, perché? No, non è la tua modulazione solita, dai. Prima andati a me, ma non andava bene. Vabbè, non è quella da camionaro che ero abituato a sentirti, dai. No, quello è un'altra radio, capito? Io sono abituato a sentirmi sempre a manetta. Ma questa è di quella radio relax, quella era Lecca Lecca. Ho capito. Questa è Lecca Lecca. Io da ciupa ciupa lo mettevo già là. Bene, bene, e vai lu. Ciao già. Allora qua c'è, sto guardando un tornado 34 modificato. Modificato, boh, ci sto a modificare niente, 200 euro. Quelli escono bene, quei Tornado 34S, se lo trovi con la scheda dei 120 canali, quelli escono molto bene. Ma vabbè, a me piace il 3.900 come figura, là, bello come paracchino. Bello argentato, dorato, cromato, come ti voglio. Sì, e beh. Oh yeah, aspetta un attimino che... Ciao, sai cosa c'è questo paracchino anche Massimiliano? Ora. Il connettore del microfono si balla un me. E magari vorrà stretto dall'interno. No, balla proprio al centro, dove sono i contatti, quello lì balla. E mettilo una goccia di qualcosa, di attac, di collaccato dall'interno, boh. Non lo saci. E vuole guardato, Lu, quando finisce tutta questa ambalavaccia, vediamo, lo vediamo bene con la radio. Oh, vieni qua, non c'è nel problema. Oh, Lu, ma quello che è attaccato al baracchino si muove. Sì, ma ce l'ho comunque, se per cambiarlo già ce l'ho, No, ma si può stringere dall'interno? C'è la ghiera interna per mantenere la ghiera esterna? No, è stretto qua, lo stretto, è stretto. No, balla proprio il centrale, se è danneggiato. E allora l'ho già ambato. Allora cambiatelo, Lu. Mi pare ce l'ho uno a 4 io no, però non faccio adatto. Me l'hai cambiato, risaldi i fili, te li segni e poi li risaldi e te lo metti nuovo. No, ce l'ho qua, già ne ho. Allora, nel capo nuovo ci ha messo il PL, adesso appena ho la disponibilità di fare il lavoro, vediamo un po', se non provo un ghirocchio il capo, perché questo qua, è buono questo, mi ha inviato tutto il 213, però non ci siamo di palle, cioè piegarlo, fare il PL, ci vuole Gesù Cristo. Casino, per fare quel lavoro ci vuole estate, giornata calda, allora. la sai come piega bene quel caso, però poi ti si rigidisce. Ma io ce la Camilla qua, è perfetto. Perfetto, vabbè, c'è la distanza dal muro, con la base, è stato tutto calcolato. Quando metti il baracchino così è un casino, non fa. KK, K di Rosmetto, avanti, un buffet. Eia, eia. Stavo dicendo, ho cambiato la batteria qua del microfono. È cambiato qualcosa secondo te non lo so. È forte la radio, fortissima, va bene. Ecco, avanti. Avanti, Brecco, e fai girare per girare il più room. Bianco, per me un attimo, che mi organizzo, mi preparo per portare i cani. Avanti, Roberto. Ehi, ciao a tutti, Roberto, per questa parte, ho sentito Claudio, Vanne, Ubrofetta, Luca e poi non so chi ci sia. Avanti, chi c'è? Ehi, tocca a me, dai. Ciao Roberto, ben sentito, cordialità anche a te, buonasera. Avanti, Luca. Ehi, aspetta che abbasso tutto. Ciao Roberto, buonasera anche a te. Avanti, Gianni. Ciao Roberto, buonasera, ben entrato e ben sentito. Avanti. Ok, calcate parlando di baracchine. C'è Massimiliano Bulldozer, Roberto. Io rimango in ascolto e mi sto preparando. C'è Massimiliano, Gianni, il profeta, Gianni Rufiorum, Luca e tu. Vai Massimiliano, riprendi tu e fai girare. Franco Californi. No, lo stavo rilanciando io. Ciao Roberto, buonasera e ben ascoltato, dai. Avanti Franco, per te l'antenna. Franco è andato a prendere il caffè, mi pare. No, ma già era rientrato. Vabbè, comunque dai, quando riprende lo facciamo entrare. Avanti Roberto. Vai, scendi giù, così. Roberto, ti sei spostato. E infatti pensavo fosse il mio apparato, mi sono spaventato. Anche io mi sono spaventato. Che scemo, che ho messo il colpo, ho spostato il down, up down. Mi senti fra? Lo so io, Roberto. Infatti ti ho rilanciato, ho detto, ma non lo sento più. Ho detto, non è successo, che non sentivo più nessuno. Ho fatto una fesseria, mi sono girato un attimino, ho toccato 60, ho toccato un attimo che cambia il canale. Comunque stavo salutando a Massimiliano, Franco, non so se mi ha sentito, gli ho detto che era molto che non lo sentivo e da dove sta modulando. No, 9, quasi 9 più 10, sai, ascolto bene, dai. E non so cosa stai utilizzando e non so da dove stai modulando. Diciamo il segnale di prima era molto più forte comunque. Comunque va bene, radio ottima, va più che bene. Ok, c'era anche Vanni, io lo chiamo Vanni per dire quello da Gianni, doppio rumbo, e Vanni Rubrofetta, avanti a te il mic. Bianco, per me ci sentiamo dopo, se rimanete qua, vado a portare il cancia. Ciao Cla. Volevo dire una cosa, ho provato con l'apparecchio che abbiamo portato, Cla. A me funziona? Ho una bomba in coso, quello trio sto parlando, me. Ma quella è a valvole, cioè non sapevo che fosse a valvole. Perché sono salito, me ricordando, ti stai, tanto ce l'ho avuto io negli anni 80 con la radio. Ricevettore della Trio Cable, grandissimo, a valvole, tutto valvolare quello. C'è la parte transistorizzata solo della parte ricevente praticamente, però è mezzo e mezzo, c'ha un po' una scheda, però tutto a valvole. Infatti se tu quello lo puoi ricevere bene, lo devi accendere prima, c'è stand by, lo lasci in stand by, le valvole iniziano ad accendersi bene, no? E poi le dai la ricezione, sai quanto riceve bene. Guarda già, mi sono spaventato della ricezione, come dicevo questa radio aspettava, è macchinoso perché c'ha una doppia scala di sintonia, c'ha l'accordatore di antenna, fate di sintonizzare anche l'antenna, e più c'ha l'amplificatore, il preamplificatore dell'antenna. Sto dicendo, non mi immaginavo che ricevesse così bene, una bomba, si è attaccato la lampada. Ho provato qua in 27 quando stavate parlando voi mezz'ora fa, però non è che sentivo bene, non riesce a sintonizzarle bene con la banda lì, perché forse è troppo distante, fa da 0 a 30, da 0 a 28 mi sembra, però 27 era un po' difficoltoso. È decametrico, Robè, è chiaro che non è centrato alla perfezione, 27 siamo canalizzati noi, capito? Quindi non fa, però se lo usi in banda amatoriale in SSB devi sentire la ricezione che c'ha quel trio, è che è un barrasone, fa un televisore di chi si bianco e nero. Va bene, dai, proseguite e ci sentiamo dopo, ragazzi. Vai Massimiliano, fai girare. Ehi, positivo, positivo. Cos'è? Un ricevitore, cos'è? Io addirittura ero convinto fosse un ricevitore, invece è un ricevitore della Trio, che la Kenbutsu prima si chiamava Trio, quando è nata, diciamo, poi quando è nata in Giappone l'hanno chiamata Kenbutsu, perché è nata come Trio in America, poi è stata rilevata dalla Kenbutsu, è una bizza, amica, grande, e, aspetta, due volte di larghezza è 4,40, di altezza, come che ne metti 4, 2 da sotto e 2 sopra, ma c'è una ricezione da paura, non mi immaginavo, considerando che è un apparecchio molto vecchio, pesante, peserà un 15 kg, però c'è una ricezione, ho ascoltato le radio broadcasting, diciamo quelle in AM, ecco, ah, Lucia, ci vuole tempo, nel senso, perché per sintonizzare c'è un sacco di funzioni, devi regolarti l'antenna, il preamplificatore dell'antenna, perché se metti il guadagno troppo alto o distorci, allora devi abbassare il preamplificatore e accordarti l'antenna, ma ti posso dire, Massimiliano, non mi immaginavo un apparato del genere che riuscisse a funzionare così bene. Massimiliano è grande, quanto è il DAT? Preciso identico. Figurati. Vabbè, vedi, quelle sono belle cose da tenere, solo le devi tenere molto efficienti quelle, sennò... Claro, più o meno del coso, del digital, insomma il capo digital 101. Mi sto dicendo quanto è il DAC, è preciso il DAC come misura, cioè, ho davanti, ho avuto negli anni che furono il Trio, il ricevitore Trio, un bel pezzo, cioè, tieni te lo conto, fallo andare, accendilo, non lo mollare, perché le valvole quelle sono, se io tabissei non si trovano più, non si trovano quelle della parte ricevente, poi ce ne ha altre grosse, non mi ricordo le sigle, comunque sono valvole che non si trovano più, e forse Fusaro c'ha qualcosa, o forse Giovanni, mio amico tuo, sicuramente ce li ha. Dai, vado a portare il cane, ci sentiamo dopo, avanti doppio rumo. Aspetta, Massimiliano. Dimmi. Ma ascolta, lo Smith del 2009 va bene al Typhoon? Sì, sono uguale. Cazzo, 40 euro costa. 40? Non ce la faccio a procurarmelo buono, sta qua tutto sciolto da... Poi c'è la lampadina normale prima, no? È un poco così, un poco... fa schifo, da. Ma perché è ingiallito o che cosa? È ingiallito, allora, dalla ricortina. Quello, quello se non che lo trovi usato da qualcuno. E l'ho visto, costava 20 euro più 15 di spese circa. Ripeto, posso chiedere, Lu, se sei interessato posso chiedere proprio a qualcuno che ce l'ha, se lo vende. E che si è messo bene, se no glielo do qualcuno di ricambio, io ce l'ho del 48 nuovo, Non lo so, cose così in cambio non lo so. È sempre da fuori, però la spedizione, tutte le cose ci sono di mezzo. Fammi sapere, dai. E oppure puoi chiedere a cosa, a Pompurio, se c'è Gigi, se c'è qualcosa. L'ho scritto poco fa, se non lo va più, boh, allucinante. Ha scritto, sono passato 3009, poi mi ha dato anche lo Smith. C'era scritto misuratore di segnale, boh, adesso non me lo va più. Sei giramento di palle, avanti Gianni, doppio rumo. Avanti, lo profetta, ci sei. KK, sono andato a prendermi una carota. Max Bunny colpisce ancora. Fai tu, stai usando di là. Avanti, Robè. No, stavo chiamando il capo che radio stava autorizzando. Non vuoi più. Ma ci vediamo, tu ci sei. Sì, sì. Mi sembra che sto usando un Cobra, sto usando cosa, Franco. Ehi, una domanda, Massimiliano, tu stai sempre lavorando, no? Nella zona della strada nuova di Olbia, di lì? Ehi, io sono lì. E che zona stai facendo? Adesso stiamo facendo la zona di Meserio, scuola rettilineo, che in poche parole collega la fine della quattro corsie, dai, quella di prima un po' di Ardara, e dovremmo consegnare tutto quel rettilineo prima del bar di Meserios. E appunto dico, perché dice a giugno dovevano consegnare, ce la fate? Sì, ce la facciamo. E poi c'è una tratta, quel pezzettino brutto, quello di Merchida, l'Oposti, che dice che vanno a consegnare ad aprile, a ver avanti. Aprile non lo so, però per agosto quella lì deve essere terminata. Perché anche quello lì, Merchida Monti, la stiamo facendo noi lo stesso. Certo, ma io non lo so, ci sono dei pezzi che non hanno neanche iniziato, io ci passo spesso a Olbia, magari adesso un paio di settimane che non ci passo, tre settimane, prima di questa roba, però d'estate ci vado sempre. Certo, ma non è che abbia visto grossi lavori, qualche c'è un coso, un vialota nel vatto, ma cose grosse grosse non ne hanno fatto. Vabbè, da quando passi così con la macchina non ti rendi conto, va. Ma quando ci sei all'interno, venne travagli grossi, vivi. Il pezzo più brutto è quel pezzo dove c'è la roccia dura, il granito di Belchita, e l'hanno fatto. Chi si è aggiunto, chi si è l'altro Vibonene, e quello l'hanno smantellato tutto. Beh, lì ci metti di meno, perché lì hanno fatto le mire, capito? L'hanno minato quel pezzo. Ah, non era molto piccolo, pensavo con le moto piccole. Anche a martellone abbiamo fatto un bel po'. Però alla fine gli scoppi, i martelli con il granito così vivo, è un casino. Sei durissimo, infatti detto, quello sarà il pezzetto. Ma il pezzo, quello di Uzzeri, di lì è tutto ordinato, guarda, la lì non è tutto in piano. Sì, sì, quello è tutto in piano, ci sono un po' di opere da fare là. Deve fare degli attraversamenti, dei sottopassi e tutte queste cose qua. Via. Dimmi un'altra cosa, cambiando discorso, scusate un attimino il monopolio della frequenza. Mascherine, dove c'è possibilità di trovarle, Massimiliano, tu che stai lavorando e sei in giro? Ma lo sai dove mi hanno detto, adesso che ci sto pensando? Le mascherine le sta vendendo, hai visto dove c'è Mauris? A fianco ai cinesi c'è uno che vende abbigliamento di lavoro, scarpe, mi sa che ce l'ha quello. No, vabbè, sono già andato da 15 giorni fa, nulla, quello gli aveva tutto esaurito e le sta facendo con la stoffa lui, però su ordinazione, non so quanto una di ordinazione, quello di Monorva, le ho viste, mamma mia, quelle del Ghiro, dei materassi, ti mette le mani in te. Me l'ha portato qualcuno, un'amica mia, le ha fatte con quelle le traverse che usano per gli anziani, ce l'è presente, quelle innovate e coso, ma veramente fatte bene, con le aggrinzite, nel senso con le pieghe, in modo che ti copra tutto il viso. Guarda, ti posso dire, mi ha portato 6 o 7, veramente fatte bene, cucite a mano, e ha comprato gli elastici, quelli delle mutande, che vengono a metraggio proprio da Mauris. Ma tu se le vedi le baneciti da un laboratorio di coso, chirurgi? E le abbiamo anche noi quelle di Bologna, che non sembrano un cazzo, oh, scusate, non sembrano niente. Ma proprio niente, sembra uno scottex messo doppio così e non vale proprio a nulla. Ne ha preso 2000 il mio principale lo stesso perché non le trovavo. No, ma proprio è come per un rettangolo, è bisogno di uno scotto, se hai detto bene, lo sovrapponi e l'hai cucito, e poi l'hai messo là. Gli elastici poi si rompono tutti, ce l'hanno preso a fianco a noi il gommista, ma si lascia perdere, non valgono niente. Ho detto, mi guarda qua, non servono. Oggi mi dovranno arrivare, questo amico mi ha detto, gli dovranno arrivare, c'è una parafarmacia grossa, qua a Sassari, ha detto, roba, devono arrivare oggi, e non so arrivi, dice, li hanno bloccati in dogana, non so da lì, non le hanno smistate, dice, forse arrivano lunedì o martedì. È un problema. Sono queste mascherine, vabbè, sono un casino, sono io, diciamo, io uso quelle da solo operatori, quelle verdi classiche normali, perché noi li usiamo solo ed esclusivamente per il viaggio che facciamo col pulmino, diciamo, da Sassari alla 597. Mascherine e guanti, poi una volta che arriviamo lì ognuno ha il suo mezzo, io me la tolgo, capito, solo per viaggiare, basta. Sì, ho capito, poi tu già sei tutto sigillato dentro, ma aria condizionata a noi. Per forza, se no non puoi lavorare senza, non puoi portare neanche l'escavatore se non ha l'aria condizionata. Chiaramente tu, ho sentito il discorso, tuo babbo dice faceva le scavaturità a quelli che lavoravano sotto il sole, cazzo d'estate a 40 gradi, adesso i mezzi di adesso hanno una tecnologia tutto automatizzata con giusti che fai tutto quello che vuoi. Sì, adesso non sono neanche più idraulici, capito, i giusti che sono elettrici, l'ultima generazione sono elettrici, non è più neanche tubi idraulici dentro la cabina, capito, è una cosa fatta un po' seria, là. Già lo so, quelli piccolini a me ha portato qualcuno, scandellari, parlo di quelli piccolini, Bobocat e quegli altri, Manitou, ma erano un giocattolino, cioè io che non capisco niente, chiunque li poteva guidare quelli lì, c'avevano una sensibilità nella guida, belli, poi chissà quelli che avete voi cosa sanno, è bella fantascienza. Ok, dai, avanti per non monopolizzare il canale, prima Luca e poi Vanni. Chi è Vanni? Avanti Vanni. Io sono, no, per gli viene meglio gestire la cosa visto che c'è già nel doppio rumo, allora Roberto mi ha ribattezzato Vanni, grazie. Ah, ho capito, vabbè, sono un profeta, uguale. E niente, non so che dire, non so che fa. Proposito domani, impegni ne avrò. Domani è sabato, venerdì, cos'è domani? Sabato. Ah, sabato, sì, domani c'è qualcosina da fare. Alla fine c'ho, allora, devo smontare quella TV, la devo buttare e poi cosa c'ho? Giusto per dire qualcosa. sa di. Luca, ma perché c'è questa razza? Perché non ti piace? No, non è la solita tua, è troppo nasina. Robe, accontentati adesso. L'altra, che c'ho il mobile come lo esce bene. Esce un po' così. Non so se si può fare qualcosa, Massimiliano. Lo sai, Luca, io ne ho uno uguale di questo mobile. Riceve e non trasmette, cioè dai watt ma non c'è la modulazione. Non ne comprende tu? Io gli ho adattato un microfono amplificato, ma non nemmeno un apparecchio, c'ha il frequenzimetro, vabbè, se vira lo sai come ti è fatto, solo che non esce bene. No, non hai capito, il mio non esce proprio, cioè la modulazione non esce, però tu se schiacci la portante ti segna il watt, riceve, va in FM, fa tutto, però non trasmette. Allora Massimiliano, ho il microfono che non sta andando, oppure il finale di trasmissione? No, a posto, nuovo, anche quello finale audio nuovo, messo nuovo, non dava. Allora ho il microfono. Vabbè, ma se il microfono, scusa, se dai watt e quindi non va proprio la modulazione, non lo so. Infatti l'avevo passato a Gigi a farglielo vedere, non, ma qua devo bucare dubbi. Non c'è la Massimiliano, ma se io schiaccio portante dai watt, ma se non esce in radio, che tu hai cambiato i finali sia di ricezione che di trasmissione, è un microfono. Se voi io ce l'ho un microfono, se le connessioni non sono state cambiate, troppo presto, il mio esce, altro può sentire di esce. C'è rimasto su questo canale? Qua c'è Gianni Lopiorlu, c'è, scusa, tutto il c'è Franco California, vai Fra. Qua Gianni doppio. Vanni. Qua sono, dimmi Robè. Comunque io ti chiamo Vanni perché a te ti conosco come te Vanni, non in radio. In radio ti chiamano, gli amici in comune, a me mi hanno detto sempre che ti chiamavano Vanni. Vanni era un profè. Guarda il mobico, guarda un po', 1, 2, 3, prova a radio, prova a radio. È un po' pattosa. Però qui. Allora così a me. Allora, sì, così avanti qua. Come avanti, così come è peggiorata? Sì, così è peggiorato, perché è aumentato il watt. Non sa perché fa così, tu? Mi chiede c'è la manetta? Sì. Vabbè, com'è per te questa qua? No, la capisci Luca, sembra che c'hai il naso tappato, che ti metti il dito nel naso e ti fingi le narici del naso, assolutamente, non mi piace. Il segnale più o meno è quello lì, si alza anche di parecchio quando attacchi, e quando aumenti, però non sei tu Luca, sembra che c'hai il naso, mi gusti. Vabbè, sono raffreddato, eh. No, non c'è stato raffreddato, l'altro era molto molto meglio, no? Non mi piace. C'ho anche io un Mobicom. Vabbè, comunque Massimiliano, ripeto, se ti dai il watt, non è segnale, secondo me è il microfono. Non lo so, non te lo so dire. Se voi non ti presto questo che funziona, quindi se il microfono o meno. Sennò strano la cosa, ma strano. Hai visto che è bella quel ricevitore, Massimiliano? Ehi, a club, bello. È una bella bestia, l'ho avuto negli anni 80. Molto bella, molto molto bella, un grande ricevitore che ho fatto la Trio. Poi bello esteticamente, colore sempre grigio Kenwood, molto bella. Quando me l'ha portata a ero convinto che fosse il finale l'amplificatore della Kenwood, si assomiglia a un bel. Ma diceva bene questa qua, Robè. Aspetta, scusa, dimmi Luca. Dico, va bene questa allora, aspetta, scusa. Prova, no, aspetta. Dico, va bene questa allora, meglio dell'altra. Sì, questa è molto meglio, anche se non sei tu, sinceramente, l'altra tua è una fagosa, però questa è molto meglio, più presente, quell'altra era come già vedi il naso tappato, ti ho detto, molto strozzata la modulazione. Questa è molto, come si chiama, papperella, però già è comprensibile. Ok, stavo dicendo Cla, quando me l'ha portato, io pensavo fosse un amplificatore grosso della Kenwood. No, il TL922 è marcato Kenwood, quello è Trio, quello è uscito negli anni 75-80, una cosa del genere. Un ragazzino io ce l'avevo messo a toccare quel ricevitore, molto bello. Vabbè, il TL922 è uscito nel 2005-2006. D'accordo. Allora me lo mongo in, ma detto guarda se lo vuole qualcuno, se interessa a qualcuno, adesso dico basta, ma non interessa a me, me lo tengo io, lo dico. Se lo sta vendendo fammelo sapere, un pezzo così vintage a me piacerebbe averlo. Se poi te lo vuoi tenere tu, tienitelo. No, guarda, è bellino, ti dico, non me l'aspettavo che funzionasse così bene. Io pensavo un apparecchio vecchio, sarà tutto inciugato, nel senso non riceve. Ti posso dire, mi sono sorpreso per la ricezione, veramente è macchinoso da utilizzare rispetto a un apparato più recente, però in AM, nelle bande giù, le bande basse, è spettacolare. L'ho provato in banda laterale e ti ripeto, l'ho usato con la Mantova, è spettacolare. Guarda, me lo gioco, mi metto gli occhiali scuri e lo faccio funzionare. Se tu immaginati, col permesso del QSO, che io sino a tanti anni fa, sino a pochi anni fa, usavo la linea Drake decametrica e ricezione in trasmissione, non è facile usarla perché c'è un sistema di trasmissione che molti bruciavano le valvole, quindi non so usare molto bene io. Senti Giovanni, dille a detto Claudio di FB che le interessa, ho uno scambio, se le serve qualche radio, capito? Se le serve qualche radio, lui, VEU, così facciamo contento a Walter, che non ne ha, diglielo, io c'ho basi VEU anche da fare scambio. Se poi te lo devi tenere tu, ripeto, non gliene dire neanche, se non lo devi tenere diglielo che io le propongo lo scambio, se non le interessa lo scambio mi dica quanto vuole, problema non ce n'è. Yeah, se non mi dai il DAC a me io ti do Gugisso. No, il DAC non te lo posso dare perché sennò Daniele si incazza. Io per il DAC ho avuto offerte anche di 400 euro e non l'ho dato, roba. Non l'ho dato perché è una cosa che si è tolto veramente la bocca a Daniele e quindi la devo tenere, come tante altre cose che ho che non posso darle, tutto qua. No, sto scherzando, naturalmente. DAC per me in assoluto è il più bel apparato stazione base che abbia mai visto, di questi vintage, in assoluto è il più bello di tutti. Ce l'hai più belli. Ce l'hai più belli del DAC, se vai a casa di Walter ti fai gli occhi. Ma più grande di quello anche ce n'è. Massimiliano. Aspetta un attimo che sta registrando Massimiliano, aspetta. Gappa. Ce n'è più grande di quello e più bello di quello di Radio Vintage, te lo posso garantire. A volte penso che sia l'unico collezionista in Sardegna, quei livelli lì e ne ha da spettacolo. Ma basi belle, grandissime, enormi, grandi quanto è quello qua, che ci trasmetti tu, eh. Se tu prendi solo il Simba SSB, il Simba è grande quanto è quello, è un baracchino bellissimo esteticamente, grande quanto è quello, valvolare ed è eccezionale. Dico il Simba perché conosco molto bene, è sempre un baracchino che mi è sempre piaciuto, l'ho avuto, ma ce ne sono anche più belli del Simba. Va bene. Claro, una domanda tecnica, quell'antenna, non mi so se con il K31 o cosa cavolo è, quella grande di 9 metri, quella che ci avevo fatta vedere, quel Salvatore, su che banda va? Ehi, adesso non lo so perché cosa l'aveva presa Salvatore, non me lo ricordo, non penso che sia un 030 quell'antenna, ma conviene mettere per ascoltare le HF, è meglio metterti un dipolo, distendere un dipolo grande, lungo o piazzare quella lì? No, già ne va, ne ho tolta io la direttiva, no già ne va, io adesso lavoro con le filare, mi sto finendo, ho già preparato gli occhiali e tutto, adesso se domani o sabato o domenica fa tempo bello lo metto il dipolo di 80, mi hai posto Robè, ma non c'è il buono direttivi a fare cosa, non c'è ne va direttivi, metti un dipolo multibanda, te lo fai 15, 20, 40, 80 e si è a cavallo. No, non è una direttiva, è una verticale, cacchio, c'è una che mi sembra Marco Scoppio, adesso non mi ricordo il codice, è una verticale, è alta 9 metri. E allora è quella che c'aveva quando abitava in via del Porto Torres, quella è una multibanda. Ma è meglio mettere una di quelle lì o mettere un dipolo, difendere un dipolo? No, beh, già ne hai posto per mettere anche quello, dipolo. Dipolo se te lo sai fare va bene, se non te lo sai fare vuole fatto bene, se non hai ricezione non hai niente. Metti quella lì, metti due straffe, ne affianca la manta, ma intanto quella non ha radiale, non ha niente. Infatti stavo pensando così adesso quando inizia il bel tempo, siccome ce l'ho sempre smontata, l'avevo tolta la casa, anzi ce l'aveva già smontata la mantova che l'ho smontata io, c'è anche la turbo mi aveva regalato tutto, infatti me la tengo di scorta la turbo, e mi auguro non si faccia mai la mantova via, la mantova 1, così ce l'ho di scorta. E più questa la volevo mettere, c'è un altro palo vicino e mettermela per ascoltare le HF, ma ricevo meglio che utilizzare un dipolo anche acquistato. Dipende, il dipolo devi mettere bene, devi orientare, se non riceve niente, quella è verticale, riceve tutto. Fai girare roba che mi spoglio, ci sono rientrato col cane. Eia, scusate il monopolio, avanti Vanni e poi farai girare. Non c'è più Luca, ci sono tutti i pariti, Gianni Occarumi c'è. Gianni l'ho sentito di sfuggita, Franco di sfuggita, c'è Massimiliano, c'era, non so se c'è ancora. Massimiliano ci sei? Sì, stavo ascoltando. Non mi piacciono questi discorsi, capito? Ma io la verità, Robè, visto che c'è con la mantova smontata, l'avrei montata per ascoltare gli HF, con la mantova va benissimo. Ma c'è un'antenna molto più performante della mantova, fatta proprio per le HF, è molto più grande, un'antenna di 9,50 m. Io ne faccio 3 o 4 bande, adesso non mi ricordo VK31, qualche nome così ce l'aveva. Ma cos'era PK31 quella? PK31, quella di... Quella è una multibanda. Mi pare non faccia gli 80, fa 10, 15, 20 e 40. E non va bene. Alla grande. Se che hai piattata, se no te ne rabbiglio, Ah, infatti l'avevo sempre mettere, non ho avuto tempo, tanto per adesso come iniziano le belle giornate, la prendo la piazza. È simile a Massimiliano che master, so che è verde mi sembra. Sì, vabbè, beh, quando hai 9 metri e non c'è la radiale, è meglio della mantova. Qui la mantova per ricezione c'è una bella antenna. Ma di quella non è meglio la G5RV, almeno c'è anche gli 80 metri. Nathalie, io l'ho avuta la G5RV, però devi metterla bene, capito, c'è la scaletta, ci dice arrabbiati, ma verticale, no Massimiliano, ma verticale è HF, lui la mantova c'è la mantova 1 come la mia, poi c'è anche la mantova turbo, per non piazzare la mantova turbo, piazza quella, visto c'è il ricevitore, la collega ricevitore, e ascolta tutto come deve ascoltare, capito, per quello te l'ho detto. Comunque la mia è in 80 metri, qualcuno ha dovuto fare la lista per chiamare, perché arrivavano tutti a bomba, aveva una ricezione che si antenna in 80 metri, che era qualcosa di spettacolare. E io ce l'ho avuta la taglia G5RV, quando ero via Pasqua l'avevo la G5RV, perché non è che potevo montare molte antenne, poi l'ho tolta la via Pasqua e l'ho fatta a Vannino, no, la G5RV, capito? A me l'aveva fatta Antonio Bio, non te la metti, l'aveva fatta quando era lì alla parte dello sport, l'aveva fatta lì. Vanno bene, le filari vanno bene, io ho la mia, Gerusalemme, cosa faccio, Nathalie, che c'eri tu quando l'abbiamo tolta da Marco, io con quella fa 15, 20 e 40, adesso piazza di 80, adesso ben rivindo, poi c'ho la direttiva per i 6 metri, la monobanda per i 10 metri, la 3,20 l'ho tolta, troppo grande, fa troppo casino, si da tutte fascenti. Ok, dai, lasciatemi sfogliare, riprendete voi, Massimiliano riprende e fai girare. Secondo me sto cercando il microfono, devo mandare una foto, aspetta. Avevo una cubica per i 6 metri, fatta dal sottoscritto. No, anche io c'ho la cubica per la 27, non so se l'avevo fatta bene, Natale. Ma c'è la cubica per la 27? Ehi, me l'aveva data coso, Franco Delta 1. Allora, il problema delle filari, lo sai cos'è, Natale? Cacchio, che sono troppo direttive, direzionali, per cui certe posizioni funzionano benissimo, se la metti in alto non ascolti niente. Ma la mia funzionava benissimo, quella che avevo io, perché era fatta con tutti i crismi e guarda, quella che avevo io, Salvatore Emil Fanzone, quello lì, chiedilo a lui a vedere come funzionava, e la mia c'era anche gli 80 metri, andava a tutte le parti. No, già ne ho fatto anche io l'antenna, io ho fatto anche dipolo chiuso, però verticale con dipolo chiuso per bande, per altri tipi di frequenza, per stazioni broadcasting, ne avevo fatto una a due elementi, un dipolo chiuso a due elementi, però stiamo parlando in verticale, le antenne per le stazioni FM broadcast, con i coso, con l'accordatori eccetera, perché erano due elementi, era fatta in verticale, e funzionava, l'ho usata per tanti anni, avevo preso un progetto di CQ elettronica, ma sto parlando nel 91-92, più o meno quegli anni lì, e ti posso dire, poi alla fine l'ho smontata, perché poi ho comprato una nuova della DB elettronica, c'ho ancora quella 8808 della DB elettronica. Io vorrei buscarmi un ricevitore che per ascoltare le HF, però non so cosa pigliare. Ti ha detto, lei non so se ha ascoltato il discorso, mi hanno portato oggi c'era un mese, 15 giorni da un amico, il trio della Kenwood, una bestia di cosa, non mi immaginavo fosse così selettivo, cioè più del 440 riceve le HF. È fatto per quello, il trio è bellissimo, è della Kenwood stesso. Trio è il marchio originale della Kenwood, prima si chiamava Trio, poi è fallita, è stata rilevata dalla Kenwood giapponese, perché la Trio è americana, la Trio faceva anche apparati di alta fedeltà, amplificatori, casse eccetera eccetera, registratori negli anni 70, dopodiché a fine anni 70 e a metà anni 70 è stata rilevata dalla Kenwood e l'ha chiamata Kenwood. Finalmente è andata lì, Trio Kenwood, il marchio quello con l'alberino, i primi MC60 che abbiamo avuto io e tu non c'avevamo l'alberino, ad esempio io ho l'MC50 che è Trio, c'è l'alberino e sotto c'è scritto Trio, MC50 Trio. Un attimo registrato, certo, perché prima la ditta era Trio, capito? Lo stavo dicendo anche Roberto poco fa, quindi praticamente dopo è uscito Kenwood, ma prima era di Trio, io ne ho avuto uno ricevitore della Trio, adesso me ne volevo buscare un altro almeno per stare in ascolto sulle HF, capito? A chi no che lui quando è la gente quando non ve nelle bande alte non cosa cazzo accorti, sono tutti abbastanza digitali o macello. Ok, poi ma se faccio entrare Gianni, vai già. No, mi notiamo un attimino, ci sentiamo tra poco. E non potevo dirle niente, non ho potuto avvisarvi, dai. Andare, Natali, la gente adesso c'è tutti i giorni, cosa si intende? Adesso c'è, prima che non c'era, ma adesso tutti i giorni c'è, vedrai che rimane questa cosa, stanno rispolverando tutti gli apparecchi che ci avevano conservati nelle scatole, cose, tipo Gianni, l'autista, quello lì ha detto che sta rispolverando tutto e si piazza l'antenna, si rovina l'antenna adesso e si ripiazza tutto. Gianni Dischetto. Dischetto, non mi veniva il nome. Sì, vabbè, però a me piace ascoltare su quelle altre bande lì, mi capito là. È una passione che ho da tanto, ho fatto anche dei diplomi io, come essere più fuori. E quindi, cioè, buscandomi un bel ricevitore HF, perché già lo sai che se non mi avrei preso un 440, tanto per dire, però io sono sotto controllo e quindi non voglio rompere le scatole a nessuno. Ma adesso che ascolto fa? È tutto digitale, mi Natale, tu lo sei meglio di me. No. HF sono in analogico ancora. No, in analogico. In analogico, bande basse, tutto in analogico. 10, 15, 20, 40, 80. E vedete, niente, te l'accendo la radio, c'è il mondo, c'è sotto il telescopio, a questo l'hanno 80 metri. No, solo le due, le U, e basta. Lì oramai siamo tutti in SDS. Va bene. E Natale, guarda, se lo trovi uno piccolino, non so chi ce l'ha, se te lo trovo te lo dico. C'era, mi pare, uno R3000 in vendita, non c'è pochi soldi. Vabbè, cercheremo di buscarlo, se no me lo faccio arrivare a fuori. Ma tu base lo stai cercando, Natale? Già. Allora, è un giambò, portatile, base. Un ricevitore base ci vuole, allora, HF030. Ma trasmette, riceveva anche bande laterali tutto quanto. Lo so, anch'io ce l'ho avuti portatili, però l'ho avuto per anni, quando ancora non avevo la licenza, avevo il 7000, diceva anche, c'era anche il coso Roberto. Il 7000, vabbè, e poi ho iniziato a comprare i trasmetti tubi. Va bene, dai, signori, io vi saluto, sono 8-4, mi sposto un po' a vedere un TG, sto con la Rizinco in radio, beh, mi sono già messo il pigiama, e poi alle 8:30 si cena. Un abbraccio a tutti, Circolare, Natalino, Roberto, Gianni, Gianni Rubroffetta, Massimiliano, Luca, tutti, chiunque sia in ascolto su 10. A domani, già, io domani mattina sono in radio di nuovo, dai, sentiamo, riprendi. E io non lo so se ci sono domani, mi devo pulire a casa e fare altre cose. Magari domani sera, dai, vediamo un po' come si prospetta la situazione. Ciao Claudio, dai, buona continuazione di serata e buona visione del telegiornale, dai. Andrò anche io dopo alle 8 a vedermelo, che ore sono? Le 8:10. E alle 8 vado anche io a vedermelo, dai. Anche perché avrei voluto vedere la benedizione del Papa, ma non avevo voglia di alzarmi per la gamba e cose, mi volevo riposare un po'. Andavè, Natali, tu l'hai vista? Gianni, metto il televisore in camera. No, già. Gianni, ti volevo dire, portatela quella situazione, Marco. Sì, si è venuto stamattina, è restato anche un po' a casa. Sì, si è venuto. Cava cava. Andavè, grazie, Natali. Prego, prego, dovere. No, dovere no, piacere. Si fa un brutto. Cava cava, adesso magari lo cambiano di nuovo, finisci l'inchiostro, finisci i modelli a 4, non è più fa. D'accordo, dopo. Se mi dopo non è scatto il nome del porto e me lo faccio copiare da loro. Aspetta, me lo faccio dare da loro. Ma ciò che non ho capito io, se ti trovano senza questo foglio, cosa ti fanno? Te lo fanno compilare o ti mettono la multa? Se lo fanno compilare la multa, te la mettono, fanno la loro accertino che tu hai detto cavolate o che non avevi bisogno di venire, capito? Perché da quel modo loro si informano. Lo so, ma io cavolate non le dico, adesso se comincia a uscire vado in banca, vado dove devo andare, perché sono bloccato su tutto, là. Devo andare in banca per forza. Quello, cosa ti vuole? Là c'è ce n'è uno in bianco, così si puoi fare le fotocopie, se vai in banca o la fotocopia, vai là, e poi le fotocopie e via. Ragazzi, le fasi le fotocopie, sono tutti sarrati. Vai in banca, no? Ce l'hanno la fotocopia triste, lì. Per favore se lo faranno a farti un paio di fotocopie, di quelli lì. Ciao, sta macchina di Vega Fredda è sempre aperto. Allora le fanno le fotocopie? Certo che le fanno, ma ci sono anche i fogli già pronti, non c'è bisogno di portare la foto. Quanto ne vuoi? 2, 3, 4, 5, 3, 5, quelli che vuoi. Ah, ecco, non saperlo, io non lo sapevo. Ma lo sai. Qual è? Quello di coso, Di Deita. Quello ex Deita. Quello che c'è di fronte, insomma. Signore. Luca sta dicendo che ce li danno, è un servizio che loro stanno facendo, capito? Ah, ce li hanno già pronti, così è. Cava cava. E il fatto che sei giustificato andare al tabacchino, boh. Cazzo, quando sei passato di mandare a casa tua, basti un attimo, devi venire a partire a casa tua. Sai che mi sei vicino, buco. E cosa devi pigliare? I fogli per i permessi. Ma vedi che sono cazzate queste, i fogli te le danno che se ti fermano, li compili davanti a lui, anzi addirittura quando lo compili, che lo dai a lui, che tu lo devi lasciare a chi ti ferma te ne dà un altro voto anche. Così è, boh, però perché tutti se li stanno facendo, boh, sì, te li possono dare in caso sei anziano, che non c'hai stampante, che non c'hai computer, capito? Cosa c'entra? È perché uno anziano, perché uno giovane non può avere di stampante. E cosa pensa di a me se mi dovessero fermare, io non ne ho per esempio. Se mi dovessero fermare me lo dà, glielo compilo e quando me glielo compilo me lo dà anche un altro voto prima di andarmene. Perché se mi dovesse fermare un'altra pattuglia non ce l'ho, invece loro sono obbligati a dartelo. Ma sì, lo so, se te lo danno in caso tu non ce l'hai, però è meglio sempre averlo in mano. E Quindi io adesso vado all'ospedale. All'ospedale lunedì che devo fare le visite. Per entrare all'ospedale ci vuole. È inutile che tu dici. Ci vuole, quello lì bisogna equipaggiarsi di guanti, mascherina e avere il permesso. Dove c'è scritto di avere il permesso per andare all'ospedale? Te lo chiedono. Te lo chiedono perché devono sapere se tu sei affetto da coronavirus. Ma sono cazzati già, mai l'ha detto. Non è vero niente questa cosa che stai dicendo. Che guarda, mia cognata, già lo sai, ci va molto più spesso di te all'ospedale. Adesso anche lei lunedì deve andare. E quindi non ne ha bisogno di questo foglio. No, vabbè, comunque. Non è stato detto così e quindi ti sto dicendo. In ogni caso, mascherina, guanti ci vogliono. Perché non fanno entrare così poi anche per me, perché mi devo riparare io. No, su quello sì già. Poi giustamente se ce l'ha il foglio sempre meglio averla preso, non è che comunque, te lo puoi stampare tranquillamente tu a casa, anche c'è su internet. Tu mi dirai, ma la stampante non ce l'ho. Ecco, te l'ho data da solo la risposta. Ecco, e allora siamo in due. Io ne ho due stampanti, ma non ci sono cartucce. La mia invece si è guastata e l'ho comprata al laser. E poi si è guastata. Adesso ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho proprio lampada. Quindi sono senza adesso. Ma quel Massimiliano è un cuocuomane, vuole avere sempre ragione lui. No, vabbè, ciao Natalia, io te lo dico perché io viaggio tutti i giorni, capito? Per andare a lavoro, roba del genere. E già lo sai che anche per andare a lavoro, per esempio, l'azienda ti deve rilasciare un foglio perché tu superi i comuni, il comune di Sassari, e entri anche negli altri comuni, e quindi noi un foglio ce lo dobbiamo avere per forza. Però te lo dico perché tanta gente diversa da noi e l'hanno fermata e non c'avevano questo foglio e gliel'hanno data loro, ecco perché te lo sto dicendo. Poi per andare all'ospedale è lo stesso, se ce l'hai è meglio, ma se non ce l'hai te lo danno lì, capito? E infatti a chi deve essere viene là per un motivo ma non si attendi, compreso là. Però se ce l'hai tu è meglio perché tu te lo compili prima, no? Senza né firmarlo né la data. Scrivi solo i tuoi dati personali e dove stai andando e basta. Sì, ti fermani, vi rubi, mi poni la data e via, ed è già pronto, compreso dai. No, è altro, ma non pensi te a compilare. Sì, Natali, puoi fare anche così, puoi mettere anche nome, cognome, indirizzo, tanto ci vuole il numero della carta d'identità, tutte queste cose, e dove stai andando non glielo scrivi, perché se non ti fermano, così il posto non lo scrivi e quel foglio ti può servire per andare da un'altra parte, per esempio, capito? Se ti fermano al momento glielo scrivi, sto andando, bim bum bam, tutto lì. È un casino questi fogli. Cazzo, ma poi è un giramento di balle, lo sai che cos'è? Che ogni giorno ne sta uscendo uno diverso, cazzo. Ma siamo lì a quattro. Siamo, quattro volte l'hanno già ambato. Ma dimmi tu, cazzo, roba la matti. E uno, cazzo, io sto finendo la carta e l'inchiostro nella stampante. Per colpa di loro. Vabbè, ma tu si lì. Anche mi va detto, sono quattro voli e se finendo la carta, ma quattro voli. No, che io ne ho stampato un me, a chi mi ha aiutato pure a Ramicchi, mi ha aiutato. Non è che sto compiendo l'inchiostro, ma quando mi ha stampato quattro. Solo per me mi ha stampato dei, a che a me mi si viene per vari motivi. Vabbè, no. Avanti, Claudio mi sembra che è entrato, Vito Dun Dun, vabbè, ma Gianni. Vabbè, diciamo che adesso quando finiscono questi due se ne fanno altri, ma è dovuto tutto alle persone che non rispettano le regole e ogni volta mettono restrizioni in più per questo motivo. Perché c'è gente che si non futti di cattoli, piglia, esce, base, come se fosse il padrone. Non ascolta niente, non è una futti nuda di nessuno. Ciao Luigi. Ciao, ciao Luigi. Fatti la roccia e piscia e cocca, ti vai. E poi devi stare attento, secondo di Robone c'è una milione di Busà, cioè hai di Bisciana Busà dove? Dai, io sono qua, lo uso in uno, dai, gatto. Raga, io vi saluto, dai, vado a vedermi il telegiornale, dai, a vedere cosa dice. Voglio tenermi informato su questa storia, mamma mia. Speriamo bene, dai. Incrociamo le dita. Buona serata a tutti e buona continuazione del questo, dai. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buona serata, buona carica, buon riposo, buon di tutto e ci sentiamo, cambio. Ciao, doppio Ruccia. Massimiliano, asco, informazione. Io sento solo un orecchio con le cuffie, come mai? Vuole mono o stereo? Mono, mono. Ah, ecco, ma lo vedo lo spinotto mono? Yes, facciamo impresse. Ti mando la foto, io ce l'ho così per farti capire senza rompere spinotto del nuda. Ah, perché le cuffie sono da sole, mi dispiace, tagliare lo spinotto e metterlo mono, capito? Manda, manda, manda Garci. Ah, eccolo, eccolo. Sì, mi sa che vi la vivo, questi sono i scitti, boh, l'avevo Massimiliano. Però mi sa che il mio è attacco grande, però. Io questo l'avevo preso da Fusaro, mi sa. Comunque Fusaro è aperto, Sì, lo so, ci vado ogni tanto a prendere... Sono da poco a prendere un partitore d'antenna, da poco, un paio di settimane fa. Aspetta, mi nomi Massimiliano. No, è grande. Proprio su Bagussi, sì. No, il tempo, no. Ce l'ho, ma è stereo anche questo qua. Se è stereo, un macello. Non lo stereo, tutto in isarrado. No, mi sembra ci sia Gianni, un profeta, Natalino. No, anche questo qua uno si sente, non è stereo. Vabbè, è un gruppo un pareggio, ne ho tanti, però sono tutti in stereo. Gatta, gatta. Chi è rimasto qua? Natalino, ci sei? Sto andando via, dai, che devo fare cosa? Alle prossime, salutoni a tutti. Ciao, ciao Natali. Ok, avanti tu. Ehi, ciao Natali. No, io non mangio, va. Dopo si mangiava bene, tu che ha mangiato la Renzi. Mangio dopo, verso le 8:30 così, dai. Mangio un pezzettino di pollo, un capo di finocchio, come posso, mi metto un po' di olio, d'oliva, un po' di frutta e poi vai. Gatta, gatta. C'era Claudio, c'era Roberto qua, no, ma se riuscite, l'ho spostati forse. Lumbrofe, ci sei? Ehi, Massi. Dai, stacco anch'io, dai. Stacco anch'io e ci aggiorniamo domani, se coincide. Dai, ci sentiamo domani. Grazie a chiacchierata e dai, ci aggiorniamo. Ciao Lu, ciao Massi e a tutti quanti sul 10. Ok? A presto, buona serata. Ciao ciao, Cattoleotto proprio per coprifuoco, chi deve mangiare, chi deve mangiare, chi deve lasciare la doccia, chi deve andare a cagare, l'orario si va qua, ti la vuoi stacca alle 8 e mangia alle 10:00, vai Luca. Abbiamo le stesse cuffie Massimiliano. Sente bene. Anche nel telefono lo metto ogni tanto, si sente benissimo. Avevo preso queste da, adesso non mi ricordo se da Troni o da un euro. No, queste, che me l'avevo dato, mi ricordo, me l'avevo regalate. Sentono da Dio, poi i suoni sono buone come cuffia, non voglio. No, Massimiliano, se si mangiava, ho fatto bene da poco fa, vabbè, verso le 6:30 mi pare. Poi c'ho un po' di mal di testa, mi ha scombussato lo stomaco, adesso mamma mi è passato, lo mangio dopo, dai. Sì, però, vabbè, io stacco sempre a quest'ora perché cazzo alle 8 tutti quanti si innanno, mi pare che vi sia coprifuoco alle 8, quindi non c'è più nessuno in radio, non che rimane, alla giura. Ma noi non mangiamo mai alle 8, capito? Noi mangiamo intorno a... 8:30, 9:00, 9:00. In genere mia moglie è 8:15, 8:20 inizia a cucinare, quindi 9:15, 9:10. Ma c'è l'estate che è l'inverno, Tanto l'estate è anche più tardi. No, lei è 8 troppo ghizzo. Ma niente, mangia la carta di 8:30. No, io sì, no. Certo. No, vabbè, poi gli ho anche proposto di, dopo cena, di entrare qualcuno. Vabbè. Fate come volete. Tanto la sera poi entrano un po' giudori e visto che non è far radio, alla fine così passano un'oretta e basta. Tanto siamo tutti gli arresti, si può dire. Non so se tu stai lavorando, però la maggior parte delle persone sono tutti gli arresti. Sì, no, io sto lavorando, capito? Quindi io posso entrare dopo le 5:30, le 6, no, io entro verso quell'ora lì perché a casa arrivo a quell'ora. Tanto loro stanno facendo facendo i compiti o qualche cosa dalla piattaforma maestre, stanno dando compiti, insomma, adesso sto scendo giù e stavo facendo compiti. Quindi cosa avevo a fighevi? Almeno la radio mi passa un paio d'ore. Ma non accende più nessuno, dopo le 8, no. Addirittura spengono prima, se no cazzo, vabbè, comunque ognuno è libero a fare come vuole. Ma io ve ne gioco un bel, ricevi buco, buco, copri il fuoco, la gente le volte mando una cosa, sì, mi hanno appena mandata, vai. Cosa vuoi fare? Io ancora già ci sono, poi lo lascio anche acceso molte volte, ma diventa qualcuno, se entro così a fare del chiacchiere, dopo una certa ora poi lo spengo, non è che va cazzesso. Io mi ricordo qualche anno fa, anche me con Claudio, anche con te mi sa che è successo, a volte rimanevamo anche fino alle 11, mezzanotte. Io facevo anche le 3 mattina o le 4. Lo vedi, queste sono cose belle. Vabbè, prima ero proprio attacca, ma qui di casa, poi ovvio, come ogni cosa, al primi giorni, cioè il primo periodo ti piace, e poi ti rimasta la canna, poi vabbè non c'era più nessuno. Vabbè, io parlavo con Silvia, le due Silvie, poi c'era Roberto Banditto, poi c'era Marco di Ida, sono tutti qua in zona, eravamo comunque, facevamo metà, poi entrava Falcone, boh, fatta era. Ascolta, ti volevo chiedere invece, Saverio, che fine ha fatto? Cioè, stavo facendo l'antenna, stavo mettendo a posto la radio, è entrato qualche tempo, anche da poco, mi sa, qualche mese fa, ed è di nuovo sparito. Allora, Saverio mi ha detto, dice che, non so, la figlia, dice, gli ha buttato il baracchino in terra e gli ha spezzato non so che cosa, gli ha rotto la scheda, boh. Ma la scheda madre? E allora? Cazzo, tu cazzo di un po' finta da me ne farato, porca puttana. Allucinante, ma peccato, è una bella radio quella. Cazzo, di un po' finta da me ne farato, lascia i baci di mani di Brastellina. Gildo gli ha un casino, se il pacco Gildo si è confuttito, non mi lo più il telefono, io ho finito. Ma io ce l'ho già, quanto ce l'ho questo? 5 anni mi sa. E questo qua è l'S10 Massimiliano, cazzo, questo è un bel pezzi. No, io c'ho l'S, cos'è Gildo? Il 7. Gildo, allora praticamente è caduto adesso, la faccia, c'è il frontale, il retro, diciamo. Ma ora c'ho la custodia, so se l'è paccato, perché questo qua è ceramica. Cappa. Sì, no, vabbè, no, questo qui, l'unica cosa, sai cos'è, se scarico un po' in fretta la batteria, ma non mi interessa quello, cioè lavoro, lo carico due volte per esempio, perché io lavoro, sono sempre con l'auricolare, e siamo sempre in 2, 3, 4, perché cazzo siamo tutto mangiando, sempre va bene, quindi ho il caricabatterie, un attacco e via. Vabbè, anch'io Massimiliano, se lo uso normale, che se no mi dura tutto il giorno la batteria. Ma... Vabbè, ho messo il nuovo questo, va. Il mio c'ha, allora, fa un anno a giugno. Dico, mi dai già quasi 5 anni, no, quest'anno fa 5 anni. Cosa vuoi, ma cambia tale la batteria? No, perché non so, se non si può aprire questa per la batteria. Ma cosa si dice, non si può aprirsi, sì. Ci sono i metri per aprirlo. Mi ha detto che è un Samsung. L'S7 Edge. Ah, certo che si può aprire, perché io almeno non l'ho cambiato, io c'ho l'S6 anche, Edge. Tu dici che consuma in fretta la batteria perché sia la batteria, dici? Penso proprio di sì. E cosa costa la batteria di questo telefono? Aspetta che controllo, ti dico. Vabbè, se non lo usi ti fa tutto il giorno, sì? Beh, diciamo, se non lo uso, sì, dai, quasi tutto il giorno fa. Però già lo sai, no? Che quando ce l'hai in mano, c'hai sempre controlli, WhatsApp, qualche cosa su Facebook, qualche cosa da YouTube, quindi un po' lo usi sempre, là. Allora, aspetta, vabbè, se non è originale, allora la volta vedo, però originale costa, aspetta. La cosa del zio, ma non è originale, deve essere originale, è pari all'originale. Anche quella di mia moglie avevo preso, dice, era originale, c'aveva il Note 3. Vuol dire, signor telefoni. No, io con l'S10 non posso lamentare, una scheggia. Cazzo, poi 128 giga, 6 giga di RAM, a voglia. E a voglia andare. Allora, qua mi dice che è l'originale, poco vi credo. Lo dicevo. Costa 10,79€. poi c'è questa qua, la Samsung batteria originale, ricambio per Galaxy S7 Edge, G935. Quanto? Questa qua costa 9,89. Vedete, è una decina di euro, no? Poi aspetta un attimino, la codice Samsung, qua c'è questo qua, lo 6000 dalla Samsung, batteria originale, da 3600 mAh, 14,50. Come mai costa così tanto quella? È più grossa, cosa? No, perché qua c'è proprio lo stemma originale della Samsung, qua c'è la batteria, quella è 9,88, c'è scritto sulla batteria Samsung, invece questa qua è proprio alla... qua dice 100% originale, invece qua no. Ah, ecco, ho capito. Adesso non si può aprire, per forza si può aprire. Non lo so, io... cioè, non è che togli il coperchio da dietro su questo, eh? Massimiliano, allora, praticamente funziona così, lo devi scaldare bene bene, però non è... io lo so fare, perché ormai ho già aperto il mio, ho cambiato... diciamo, sono cose delicate, ecco, magari potresti danneggiare il tappo, magari a seconda come lo scaldi, magari ti può saltare un po' di cosa, di vernice dal tappo, dall'interno però, e ti si vede, a me nell'altro è successo comunque. Adesso io l'ho riaperto il mio, l'avevo messo nuovo, costa una cazzata il tappo, costa 7-8 euro, non è nessun problema. Ripeto, la spesa va bene, dai, costa 15 euro, va bene Massimiliano, però sei sicuro che è originale. Oh, ti dico che questo qua, per avere 5 anni, non c'è un graffio, è zero completamente, non c'è un punto di usura, 0, 0, 0, perché l'ho usato sempre con la custodia, capito? Adesso mi c'ho la pellicola davanti che vabbè, tutta quanta, tutta bisestrata, però il vetro, sai, non come te lo metti in tasca, gli angoli, nulla, non c'ha un angolino che è completamente nuovo, nuovo, nuovo, nuovo. Allora, aspetta un attimo, allora, c'è originale, aspetta, quella là non è manco originale, anche se c'è lo stemmino dal... allora, aspetta... vedi anche quello lì, però questo qua c'è il service pack, sarebbe la scatoletta originale con il suo supporto e c'è la batteria, non è dentro una bustina come te la spediscono, e costa 29 euro, sta sicuro originale, 1000 per 1000 Massimiliano, costa 29 più 5,90 di spese. Vedi, cambia la musica. Perché è originale o service pack? È come il display, se tu lo compri che te lo mandano così con dentro una scatola di niente, non è originale, anche se ha la scritta sopra. Invece se ha il service pack, cioè la scatola originale, allora è originale al 100%. Ma già te lo fa capire anche la differenza dei soldi o no? Cazzo, passa lì, perché qua sono due però, Samsung, due batterie, service pack, originale, Galaxy S7, costano, due ti vengono, 20, sono 45 euro, spedizione gratuita. Oh, no, pare male con te. No, ma dico, per dire, no, se vuoi risparmiare uno, se ne prende due, per dire. Poi c'è questa qua, 27, anche questa originale, però senza la service pack. Aspetta, questo è lo stesso 39, ancora di più costa. Massimiliano, se ti metto una di quelle, io l'ho messo una di quelle, ma sì, dura di più dell'originale, questo te lo posso garantire, però alla fine non è, no, te la vedo per l'originale. Sì, ma lo sai cos'è, Lu? Vendendo neanche due, allora già questa qui, vede, ce l'ho 5 anni, non penso io questo telefono di tenerlo altri 5 anni, capito? Magari lo cambio prima e magari cambi il telefono di chissà batteria, cosa te ne vai, ma la banana non ne puoi prendere una. Infatti, ormai l'S7 è andato, ormai c'è l'S20, messo a due. Adesso se mi capita l'occasione, questo me lo vendo e prendo l'S20. Adesso è un attimo Massimiliano, devo ascoltare un messaggio. Già. C'è qualcuno sul 10 che vuole entrare? Sì, avanti. È sempre fuggito di chi che vuole entrare, è fuggito dalla borsa delle palle. Ma gli ha già correndo, però possiamo si rivegna. Cazzo, sono flusciabo. Vabbè, che ci devi fare, lo? Cazzo, ma era in chiamata. Boh, adesso non fa più, ma vaffanculo, va. Due volte te la me ne fa il telefono, tre volte, sì, perché mi ha affidato anche il vetro che c'è sopra, ma non male c'è il vetrino sopra, Massimiliano, perché sto qua c'è anche la garanzia a casco, capito? E non è quella serie, tu va da un no, non funziona così, no, non è, mi sono già informato, dice no, ti pagano i danni, cioè non avevo sotto la macchina, magari, lo posso fare. Lo so, ti mando una foto, guarda, questo qui l'ho venduto da poco, questo era bello, no? Sono una vetrinetta te l'avevo lasciato, questo è tipo il 3009. Aspetta, quando la moto deve essere 6 mio, cazzo, ma il cazzo che mi è caduto in terra che si è filato, se no mi hai venduto in chissu. Comunque sia, questa sedici l'avrei preso, me l'avrei subito venduto, mi volevo dare 500 euro, cazzo ci ho pagato 200 euro. Beh. Presente lo disco così, non mi pare dall'aria, no? No, no, 120 l'ho fatto. Ah, normale? Non so se... sì, è normale lui. Però quello che l'ho dato se lo deve fare così con scheda raccolta. Sì, questa radio è normale, però spinge un bel. Perché con 3 watt mi sono dato intorno ai 20 o 22. E questo che cos'è? Questo è l'SSI Edge 64 giga. È carino, ma il vetro è rotto. No, è filato Massimiliano. Praticamente mi è caduto e ha preso l'angolino. La parte, la curva, dai. Peccato. Ma funziona bene, E vendi il diro. Tanto se non lo usi, usate me la fotti. Vabbè, tu mi dai un telefono di scorta. Massimo mi vuole dire, mi vuole da due citti. No, la rimarichino, non me la fu. No, io bisogno di dire la Massimiliano. No, lasciatelo stare. Peccato, peccato. Stavo facendo un favore. Praticamente ce l'avevo, un pantalone da lavoro, no, con la tasca quelle al fianco. Ce l'avevo aperta, siccome non mi chiudeva, no? C'avevo una scala, si è agganciato, cazzo, poi è arrivato al posto, si è agganciato, mi è iniziato un'ora e ha pigliato un angolo del marciapiede. Cesso, grazie. Tasco, il vetro cosa ha cambiato? 300, sono riparito 200, sono meno che 270. Cavolo. Avanti, cla. E cavolo. Massimiliano, purtroppo è così, dai. E ce l'ha giù tutte le funine. Poi ho avuto questo affare qua. Questo tipo voleva 250, tu mi guarda, non ne ho altri, li vuoi? Ma no, non ne ho, li vuoi? Ma, vabbè, da. E mi ha dato tutto scontrino, tutto, scatola, tutto. Ce l'ho già, allora, ho preso l'anno scorso. E quasi un anno ce l'ho, dai. Buono, buono. Che sta aumentando, Claudia? Ho sentito una portante, così, c'è una portante di chi è? Sì, sono a Viaggio, Roberto e Claudio, ma non è salutato in nulla, Ma mi sono infettato un truccazzo di gruppi, cosa cacchio è, Cosa, no? E questi gruppi porno mi stanno invitando, ma non te mi arrivi, aveva messo il sito, cosa me ne ha fatti, gruppi porno? Ma te ne arrivano a te? No, perché ho bloccato io il sistema. No, su Messenger. Sì, però no, vabbè, porno no, di altri tipo sì. Cazzo, poi c'è chi ti scrivi, sono, non so, mi interessano uomini, controllare questo sito, ma girami le palle. Gappa, gappa, andrà bene. Adesso me ne scendo un po' giù, bevo un vinello buono. Intanto anch'io tra un po', 10 minuti ancora e poi vado a mangiare. Gappa gappa, poi domani se c'hai tempo, domani dopo pranzo, poi già ti mando un messaggio vocale. Ti dico che cosa devi fare su quella radio. Su quale? Su quella che stai usando adesso. Ma per quanto riguarda l'eco? No, già te lo dico al telefono. Ok, ti mando un messaggio vocale e te lo dico. Gappa, dai, che ho Lu, ci sentiamo domani mattina, più tardi, vediamo che la messaggio da giù. Hai capito, io ho salutato a tutti prima di andarmene, capo e bugnetta. Luca, hai sentito il saluto di Claudio? Ma sono sincero, no, perché stavamo facendo delle prove per quanto riguarda il Mobicom. Io non ho sentito, non posso dire sì o no, c'avevo volume basso. Infatti ti ho rilanciato e tu mi hai detto aspetta un attimo che Massimiliano sta registrando. Ah, è vero, bravo, è vero. E allora sapete che la recita c'è due, passo e chiudo. Era giusto un'ultima, con cuore. No, gli ho mandato un messaggio io che potevano salutare prima di andarmene, Gappa, vabbè, allora mi scuso, forse non ti ho sentito, vabbè, vai e piscia e cocca, ti vai, Bruno, che cazzo alle 8 c'è il coprifuoco alla radio. Cazzo al vero. come, boh, allucinante. Ma ti ricordo quando facevamo un radio più 9:30, 10, 10:30, anche le 11, ma niente di fa. No, no, no, Luca, c'è il radio a casa, mi sposto, sono dalle 5 io in radio a me, ma se veniamo entrato alle 6:30, alle 7, che ora era, non lo so. Lo sai ci sono da questo io. Alle 5 ero già in radio, forse è stato tutta la sera non garrento, dai. Sono spostato alle 8:15, va bene, io vado a vedere il telegiornale, adesso mi ho dato un'occhiata, niente di che, ho visto il messaggio di Massimiliano e sono rientrato qua un attimino, però io c'ho tutto acceso, mi sto ascoltando, non è che, capito? Non mangio più grana, vai. Ormai anziano, lui vorrebbe fare. No, perché è un dirigente, come vedo scattare le 8:10, subito parte, devo mangiare, devo fare, magari poi non mangia in manco. Non è che c'è un orario per fare la radio, io sono entrato a quell'ora perché sono arrivato al lavoro, se no io già mi piace starci anche in radio. Tutto qua, vabbè, ma tu ormai cosa, vai, vai. C'è l'aria, c'è tutto, va, pisci a cocca, di va. Allora Massimiliano, aspetta, io sono sincero, quando sono da marina noi mangiamo a quell'ora, capito? Prima delle 8, perché capita che molte volte me ne vado, poi prendo il tram, anzi anche prima mangio. Perché poi io ho il tram alle 8:20, prima 8:10, 8:15, là, lo prendo lì da Santa Maria di Pisa. A meno che mi viene male perché è un casino, io non sto lì. Capisci a me Massimiliano, è un casino. Già lo so. Ma non ce n'è più lo zitto. Certo che ce l'ho sempre, non si fa buzzino. Mi vogliono dare 2 citti ma non lo tocco. Certo che è abbastanza nuovo, cammina abbastanza bene. E mettetelo in funzione allora, scusa, perché il biglietto lo dà, adesso sta arrivando il bel tempo. Ti fa l'assicurazione, ti date ISO, date una foto, almeno per spostarti. Ma poi da stare entrambi. Non mi pago 400 euro d'assicurazione, ma trattalo zitto, ma non sarà mai. Basta trattarlo così d'assicurazione. No, poi ti fanno la foto a targa, mi dico che è incasinato dalla vita, tutti i verbali. Non basta che ne ho quelli di qualche anno fa. No, lascia perdere, ma ne fermo, non mi interessa. A targa la rubi la volta la moto, mica ci metti la tua. Tu ci mandi subito. No, ma se non vuoi incasinare, già la vita è un casino, ma è un casino ancora di più, no, non è da me, dai, non è da me fare certe cose. Poi non manco targa, la targa sempre l'ho fatta, prima c'avevo quella di Carletto, la verità, usavo quella, poi si è rotto le balle, me l'ha chiesta e l'ho restituita perché non si sa mai che gli arrivava qualche verbale, allora ho fatto la targa nuova, quella con il libretto come uguale a quello della macchina. C'ho quello, adesso lì, poi, allora questa moto praticamente risulta come una moto 125, un esempio, no? E lì non risulta adesso, perché no, io non ho fatto nemmeno un, come si chiama, che si fa ogni 2 anni, revisione. E non c'ho ancora una revisione, ma se tu si mangia a lì. Ma non avevi usato anche la targa mia un periodo? Targa tua, no mai. Sì, avevo la girata uno e la targa. Me l'ha restituita, ma pensavo che l'avevo fatta a te, non mi ricordo, boh. Ma ci vediamo, io anche stamattina ero in radio, sto mangiando, vista l'una, per dirti, io sono sempre qua, però a volte ho bisogno anche di staccare un pochino, vai. Anche perché mi fa male il culo seduto chissà volte no. Ma sto scherzando, va? Comunque se tu notti tutti i giorni, no? Anche quando entri in radio, cose. Tu guarda, alle 8:05, tutti scappano. Fai visione a coprifuoco a quell'ora. No, io Massimiliano 7:15, 7:20, 7:30, stacco per portare il cane. Poi quando ritorno, se siete qua, riprendo. Però visto che stavate parlando tu e Coso e Luca, non ho ripreso. Poi mi hanno dato un messaggio e sono tornato qua. Ma la radio era accesa, non è spenta, io la spengo. Quando mi curi con la radio, basso il volume, è radio, soprattutto quella che la spengo quando mi curi. Ma io questa qui ieri l'altro giorno l'ho spenta, perché ieri non l'ho accesa niente. Eppure ieri ho fatto radio e non l'ho accesa per niente. Oggi l'ho acceso questa, allora. Ci vediamo, la sto accendendo tutti i giorni e sta lavorando alla grande. Stamattina quando l'ho accesa, per due secondi solo, ho fatto tutte le tensioni, ho tutte le controllate, eccetera. Torna puntini, capito? Quindi la sto lasciando accesa il più possibile, fino a quando rimane, come dico io, c'è una guida e c'è quella vacone, e uso le altre, perché mi sono rotto le balle di questa radio. Sì, ma basta sistemarla, è una bella radio qua. Bella, io non ce l'ho mai avuta, ma adesso ce l'ho, è bella, devo essere sincero. Sì, una giobba le piene, dice il radio, ma ci vediamo. Capito, ne ho balle piene, ne ho avuto a bizzeffa di queste radio qua, quindi ne ho le altre due, la di chi ci ferma, boh, basta, non ho visto più. No, ce l'ho fatta, è già stata revisionata 2 anni fa, capito, è stata revisionata 2 anni fa, non ti ricordi, è stata 2 anni fa, te l'avevo anche detto. Che la cotta non ritirarmi, per il prezzo che mi aveva preso, con 120 euro, capito? E poi Fabrizio mi ha detto controllare le tensioni, non c'era la tensione, ha controllato, ho ripulito tutta la parte di luce della telina, non lo stava più facendo. Adesso stamattina l'ho accesa, nonostante la stia usando tutti i santi giorni, l'ho accesa per qualche secondo, sulla pace continui, poi si è ripresa subito e basta. Però dico, è un casino con queste radio, sono radio vecchie, boh. Alla fine quando si ferma non ne aggiusto più, la tengo come l'altra, oggi ne aggiusto due. E uso il 430 e il 140, basta, e non mi compareggio mai più, boh, basta, finito. Ho speso tanti di quei quattrini, ho 440 e tu non hai idea. Queste sono le ultime parole, cazzo. Cazzo, ma ce n'è cosa volte, me ne invidio un'altra, alla Bedurano ci ho avuto la butta a capo, basta, ma guarda, io conosco come le mie tasche, guarda. Non c'è niente da fare, non c'è niente, e l'unico difetto che ha questa radio è quello, boh, basta, non ha altri difetti perché è una canonata, però perché il 430 quel difetto non lo fa, perché il 140 e il 70 non lo fa, solo il 440 lo va adesso il difetto, basta che la lasci spenta, ma io la sto usando tutti i santi giorni. Evidentemente c'è qualche tensione che non mi è sfuggita, non lo so, a parte il fatto che io non è che abbia tutte queste capacità e tecniche per fare una misurazione del genere, perché ci vogliono gli strumenti adatti, però in linea di massima ho visto, adesso appena si può uscire, che fa un bel tempo, la prendo, la porto a casa di Andrea e la controlliamo tutta di nuovo. Passo per passo, capito? Perché è impossibile, cazzo, che ogni 2 anni si fa regheggiare i condensatori usandola tutti i santi giorni. Ma tu in tutti questi anni che c'hai questa radio qua, non ti sei mai dedicato a cambiarti di tu queste cose? Cioè anche, non so, per adesso magari ti è calato un po' la vista e roba del genere, ma cazzo, ridate da 30 anni che c'è radio. E non ti sei mai dedicato magari a farti la sostituzione di questi condensatori? No, ma ci vediamo, non è facile fare quello, non è facile, guarda, io le conosco come le mie tasche, le quattro classi praticamente, 30, 40, 140 e 70, le conosco bene, tu lo sai, solo per mettere le mani, so quali sono i pregi e i difetti, però fare quel lavoro, guarda, io l'ho visto fare proprio a Fabrizio, mi sono spaventato. Non è cosa da me, devo essere sincero, non è cosa da me. Ci vuole una strumentazione pazzesca, ma non saldatore di rubifero, veramente professionale, tipo quello che c'è Gavino, roba professionale, lente di ingrandimento, una pazienza, sono talmente piccoli, tutti sono poi tutti allineati nella pista, guarda, la parte di voce è la cosa più. Lascia perdere, non è cosa che posso fare io, Massimiliano. Se poi mi dici di cambiare altre cose, le so fare. Però quello è proprio un lavoro veramente, devi avere pazienza e tecnica soprattutto, e manovremma, a che si imbagli e bruci la pista, boh, si rampa la radio. Vabbè, magari tecnica ci vuole anche quella, però sicuramente devi avere più conoscenza della radio all'interno, come staccare, come fare, capito? E oltretutto devi avere anche gli strumenti adatti per fare questi lavori, cioè non stai saldando una resistenza o un PL o una cosa, capito? Ma è strano che proprio questo tipo di radio faccia questo difetto. E fanno, è solo questa qua che la fa, boh. O c'ha qualcosa che magari deve andare nel tempo, e vabbè, siamo capiti nel punto di vista di 30 anni, giustamente, è come tutte le cose, no? Le cose si rovinano, cerchi di metterle a posto, e durano quello che durano, e poi magari ti rifà lo stesso difetto, cosa fai? Tu prendi e le ricambi il pezzo, no? E te la tieni finché non te lo rifà. E così è solo il radio. Così è Massimiliano. Ma non è neanche un problema, perché tu prendi il kit già completo, già allineato, già pronto, devi solo saldare e saldare. Ma poi c'è l'allineamento da fare, Massimiliano, che non è buccia di jogger. Devi avere l'adattatore di spettro, devi avere l'oscillatore, perché va tutto allineato banda per banda. È un lavoro che, ti dico, è un lavoraccio. L'ultima volta che l'ha fatta a me Fabrizio, che non ce n'è per nessuno, 16 ore c'è stato, 16 ore sopra quella radio, capito? Io non nasco Basenzia, ma si vedeva, se mi dici magari quando ero più giovane, però si fasciava, la prendeva, la mandava la Guidetti e via. Pagavi, allora si poteva anche fare, perché costava di meno. Ma l'ultima volta l'ho mandata 2 anni fa, Cato Bianconi mi ha preso 180 euro più 20 andare e 20 a tornare, quindi 220 euro, mi vale 300 la radio, cioè alla fine, capite? Io qualcosa la so fare, però quando i condensatori si bloccano non c'è niente da fare, devi sostituire quelli, che ripeto sono dei micro condensatori che ti rivolgano i dolci, devi avere una pazienza, un'affinità, una precisione. Non è cosa per me, non ho vergogna a dirlo, non è cosa per me fare quel lavoro. Se cominci a fare altro, allora lo posso anche fare, perché l'altra che ho non accendeva neanche, l'ho fatta accendere, trasmettere e ricevere nel suo piccolo, perché ce la fare tutta la parte del VCO nuova, capito? Eppure senza frequenzine che la giornata funziona, facendo i sonda con un'altra radio, quindi un po' di pazienza ancora ce l'ho, ma fare quello no, Massimiliano, lascia perdere. Se si blocca, non c'è più nessuno che possa fare queste cose, perché io la CSO non glielo mando un 4,40 a 35 euro l'ora, ma nota V, notte nante, è meglio che ve la mandi te, mandami un portatile e devi dire a prezzi di ricambio. Oh dai, cuomo, io vado a mangiare, dai. Tanto stasera non ci sentiamo perché non entrate. Niente, a domani, ciao Massimiliano, ciao Claudio, buona cena e buon tutto, ciao. Ciao Lu, saluto prima io, dai, un abbraccio, a domani. No, io adesso come finisco con Massimiliano la lascio accesa e la spengo quando mi corico e basta. Vai Massimiliano. Ehi Iona, ciao Lu, dopo ti mando un messaggio. Ci sentiamo, buona carichetta, vedi anche io anche qualche altro passaggino, poi scendo giù là. Gappa, capito Massimiliano? Così, ma io ti ripeto, già negli anni che furono, io mi ricordo, avevo comprato il 430, il primo 430 assieme a Marco 131, ma Mario Notari, e non ho mai avuto un problema del genere, altri problemini, ma anche adesso io ce l'ho 10 anni il 430, non ho mai avuto riparazione del genere, ha cambiato il frequenzimetro, Fabrizio che c'erano bruciati due decimali, ultimi due decimali, poi qualche altra fesseria, ma mai fatti quei lavori, capito? Poi di 140 non ha già avuto una bizzeffa, mai un problema del genere, mai e poi mai, se 80 ne ho avuto 4, questo è uscito dopo, l'avevo comprato quando ho usato, quando sono diventato allenatore, ci avevano assegnato i 6 metri, avevo comprato quello perché costava poco e poi avevo preso la radio più, insomma, più consistente. Ormai quei difetti, uguale 40 da grande è nato difettoso. E vuol dire che là c'è un sistema diverso di lavoro, capito? Un'altra macchina, e quindi magari all'interno lavora in diversa maniera delle altre. Guarda, per dirti, quello di Giulio, quando gliel'ha fatto l'estate scorsa, l'altro giorno mi ha detto, lo sai che l'ho acceso e ha fatto dei puntini, qualche secondo si è ripreso subito, è proprio un difetto, è questa, è stata fatta 2 anni fa, capito? 2 anni fa, quindi non è che, perché io l'ho ritirata a settembre due anni fa, cazzo c'è ma marzo, quindi fai settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, due anni e sei mesi di riparazione, 220 euro, ora butti a capo. Vabbè, finché dura, fa figura, come ti dici, no? Vabbè, no. E comunque, sta lavorando bene, no, già va bene. Dai, Claudio, ci sentiamo domani, allora, là. E adesso me ne scendo un po' giù, adesso da 10 e mezzo vi sopra, ok? Loro stavano facendo compiti, adesso le maestre hanno trovato questa piattaforma, quindi sono tramite computer, si vedono, adesso si bisara, mettersi ora, che se ne andavano per andare a scuola, però la fanno a casa, capito? E così il ballo, la stessa cosa, il maestro ha trovato questo sistema di far lavorare i ragazzi e tutte cose. Va bene, salutoni, un abbraccio qua, ci sentiamo, io mi ho tolto già mezzo agnello, domani ho la colatella, me la leggo con le budelline e domani a pranzo facciamo mezzo agnello. A voi domani? No, sabato niente. Perfetto, allora ci sentiamo domani mattina, dai, se sei a casa, noi siamo in radio anche la mattina intanto, ok? Va bene, come tra i due, ma ci vediamo. Finché dura, anche quella. Finché non anda, io ti avviso, non ti preoccupare. Ok, dai, io adesso, comunque adesso non l'ha più fatto, sto usando quella. Adesso domani mattina, se c'è tempo, la riapro, faccio un altro po' di tredina, vado nuovamente a pulire tutta quella parte lì, non si sa mai, e mi ricontrollo le tensioni. Perché come ha detto Fabrizio, dice che le tensioni vanno controllate ogni tanto perché dice che si abbassano. Vabbè. Ok, ciao Massimiliano, un bacio a Gaia, saluta Daniela, un abbraccio e ci sentiamo domani. KK, ciao. Ciao Claudio, saluto anche chi sta ascoltando. Ciao, ci sentiamo. Ciao.